E il muro di omertà che c'è stato per un lungo periodo all'interno del corpo dei carabinieri, non di tutti, è dimostrata dal fatto che la verità è emersa dopo 10 anni. Allora, perché il corpo dei carabinieri in parte ha mostrato omertà. Tant'è che ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma! Ci sono state le scuse del comandante generale dell'arma! Ha capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa! Hai capito o no? Hai capito o no? Il comandante generale dell'arma ha chiesto scusa! Hai capito o no? Scusa, ma stai parlando in tedesco? Parla! Parla! Il processo! Parla! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voglio dire, una mamma normale, una mamma che mette la sua bambina in vendita o se non in vendita comunque la offre e sta a sentire, a guardare quello che quest'uomo con 20 anni e più di questa bambina che ne approfitta, perché questa roba qua in Italia è un reato grave che va punito. Perché non è che ci sono, e glielo voglio ricordare, del debbio. Mi dispiace che lei scuota la testa. Lei un padre, voglio dire, verrà da lei a confessarsi e la perdonerà. Io voglio, sono onorevole, per la legalità. Per chi fa l'amore con la una bambina di 12 anni, un pedofilo, basta. E va in galera. In galera. Se tu hai, puttana! Donato! C'ho un senegalese qui. Senegalese? Allora. Ci dà un documento d'identità? Sì, ok, do i documenti, sono qui. Forza, condividete, perché siamo liberi e dobbiamo andare a votare. Sì, ciao a tutti. Guarda, mi hai fatto sentire quell'intemerata di Sgarbi contro le pro-evasione fiscale, mi ha fatto girare ancora più i coglioni. Ma io, Giuseppe, sono incazzato nero perché l'altra sera, quando in tre siete andati contro Gottardo per difendere quel furfante di Sgarbi che da 30 anni ti porta a casa soldi pubblici, ma uno col pedigree di Sgarbi, allora, uno con quel pedigree, che va in giro ad essere, ma quali coglioni, ad essere messo su un piedistallo, essere riempito di cariche pubbliche, uno coi precedenti di Sgarbi, ricordali, l'anno scorso, il comune dire? per mafia, lo devi dire, lo devi dire. Ma che vuol dire? Ma non è che la storia di una persona è segnata dai precedenti? Ma che sei, Travaglio? Travaglio, il piccolo Travaglio? Che cazzo vuol dire? Lo devi dire! Eccolo! David! Eccoci, Davide, qua, venerdì, amico caro. È venerdì, Davide. È venerdì. Io ti voglio subito far ammosciare. ti voglio subito mancano far ammosciare i coglioni. Alla fine del tutto. Ma cosa? Due alla ore alla tutto, chiusura, alla fine del tutto. Dunque, stamattina mi sono svegliato alle 4:20 del mattino. Voglio raccontare a te e ai nostri ascoltatori solo questo. 4:20 del mattino. Prendo il treno delle 5:10 per andare a Bergamo, a Bergamo. Un convegno della CGIL. Sì, vabbè. Un convegno della CGIL. Sul tema del lavoro col vice ministro dell'economia Misiani. Ma sti cazzi. L'affetto, l'amore. Che la città di Bergamo, ora che è stata, come dire, abbandonata da Feltri, no? Ora che Feltri l'ha lasciata. È a Milano. Beh, adesso, ma che città, che risplende. Cioè, ti hanno accolto c'era con amore, dici, ti hanno gente accolto... che mi fermava per strada, lo dica che questa non è solo la città di Feltri, lo dica, pota, pota, dice uno, pota, lo dica. Cioè, ti hanno fermato i lavoratori, persone per strada, che non sopportano l'idea che Bergamo venga identificata con Vittorio Feltri. La smetta di dire che qui abita, perché qui c'è Trussardi, le grandi imprese, le aziende, una bella borghesia, cioè secondo me è una città complessa. Cioè, ecco. Stai dicendo che non è giusto identificare Bergamo con Vittorio Feltri? Non è giusto per Bergamo. E l'affetto dei lavoratori della CGL. Ma l'affetto di che cosa? Poi ho ripreso il treno. Quelli sono sindacalisti alle 2 da Milano. Da Milano ho ripreso il treno alle 2 e sono ritornato qui. Una giornata intensa di lavoro con la sveglia alle 4:20. Ma fatto perché la CGL sei andato nel tornio. La CGL mi ha chiamato a moderare questo incontro. E io sono andato. Al soldo pagato dalla CGL. Pagato dalla CGL. Ecco perché non parli mai male dei sindacati. Pagato dalla CGL per moderare i convegni. Dipende che cosa fanno. Pagato dalla CGL. Guarda come ribalti la realtà. Pagato dalla CGL per moderare i convegni. Quando sentirete parlare in televisione David Parenzo di sindacati, sicuramente non sentirete una parola contro i signori della CGL. Come mai? Se avessi assistito oggi all'incontro, quello cambieresti opinione. Io spesso mi sono confrontato col comandante Landini, allora, ad esempio su sardine ragazzi, l'ha chiamato comandante Landini, sì, sardine, le sardine ragazzi, le sardine. Sardine. Ieri ho avuto un incontro ravvicinato con una sardina di Napoli. Non è di quelle organizzate, non sono i leader, perché quelli là non vanno in televisione nelle trasmissioni che non piacciono a questi signori, cioè non vanno sostanzialmente in tutte le trasmissioni di Rete 4. I signori hanno deciso: noi a Rete 4 non andiamo. Uno può rispondere, dovrebbe rispondere, sti grandissimi cazzi. Ci sono però delle sardine sciolte. Cioè, non sciolte nel senso sciolte nell'acido, sciolte, qualcuno potrebbe capire male di questi tempi, sciolte nel senso che non dipendono dai capetti, da quel santuzzo, san cazzo, santoro là che era ieri anche da Formigli, no? Dunque c'era questa sardina di Napoli. Mandare in onda per due minuti, qualche secondo le sardine ogni giorno è molto significativo. Sentite questa. Scusi, i porti dovrebbero essere sempre aperti e noi dovremmo accogliere sempre tutti. Benissimo. E avere la capacità nell'accoglienza di capire che cosa vanno trovando e perché vengono qua. Questo è il proclama di una sardina. I porti dovrebbero essere sempre aperti. Anche io ho risposto, ti ripeto, perché poi c'ero anch'io lì presente. Sì, questa è l'unica trasmissione in cui i conduttori mandano in onda le loro performance. Io ho risposto che i porti. Ma chi devono essere chiusi per un ministro dell'interno? Tu chi sei? Chi sei per dirlo? No, io dico. Che è il ministro Cruciani, sono chiusi per definizione. I porti devono essere chiusi, sbarrati. Sbarrati, ragazzi miei. Io invece li vorrei chiudere, sbarrare. Chiudere a quattro mandate. Scusa, ma tu casa tua la tieni aperta oppure c'hai i chiaristelli? I porti sono come gli ingressi delle case. Comunque mi fanno giustamente notare, a proposito della tua performance televisiva di ieri, che hai una somiglianza inquietante con Santori. Cioè, Santori ha il cerchietto. Ma quello c'ha 20 anni di meno. Se tu ti mettessi il cerchietto, no, ma gli assomiglia. Ma che lui, peraltro, si lava i capelli ed è ben educato. Lui non dice le parolacce, tu dici le parolacce. Mi stai offendendo. Ma probabilmente da giovane assomigliavi a Santori. Ti porto in tribunale. Da giovane. Ti porto in tribunale, ti giuro. Se mi non dici nella così, sua freschezza. Ti porto in tribunale. Non per nella sua freschezza, mi stai diffamando. Non nella sua freschezza. Ancora questa cosa del giovanilismo e della freschezza. Non è che se uno è giovane oggi c'è questa idea, i giovani. Ma che cazzo di certe volte i giovani sono dei rincoglioniti e c'è gente di 60 anni, non io, non mi metto in mezzo, 60, 65, 70, lo diceva anche Cossiga, che hanno molto più cervello della gente di 30, di 35. Vabbè, quello dai, ma loro ma hanno parliamo? Questa carica, questa freschezza. Ma che carica, ma la chiamo una freschezza dinamitarda e quasi, mi stai no? Una freschezza mi dinamitarda. A Santuzzo, a Santuro, no, San Minchia, se ti mettessi, mi stai affiancando a uno dovresti di cui metterti non voglio il nemmeno cerchietto. Ma io il cerchietto lo lascio a Cristiano Ronaldo e a quell'altro là. Oggi attualmente c'è un signore che Sardina. Si chiama Salvini, sì? Che non ha questa intenzione, sì. Ha chiuso i porti. Però non è più al governo, attualmente sì. Non è più al governo, no, fortunatamente. Per... Vediamo che le cose vanno molto meglio. Vanno no, meglio. Senti il pubblico, no, senti il pubblico. Le cose vanno molto meglio. Io ho inaugurato ieri sera questa cosa di dire. Tu hai inaugurato sì, ieri. Bello, il pubblico veniva ma tu sei a un fare... istigatore. Cioè, tu vai lì e ti pagano per fare. Ma allora questo bisogna denunziarlo, però. Ti pagano alla trasmissione del Debbio per fare. No, senti quest'altra che dice questa che Trump è impazzito. È l'unica trasmissione in cui i conduttori si diffamano a vicenda. Cioè, stavo pensando che in genere le trasmissioni sì, non accade sì, che no, uno mai, diffama mai, l'altro. Mai, questa mai. È l'unica trasmissione che tra le sue grandi e tante peculiarità ha anche quella che oltre sì. A smarchettarsi a vicenda sulle cose che fanno l'uno sì. Si autodelegittimano. Sì, sì. Una cosa incredibile. Pagato dalla CGL. Pagato dalla CGL. Ma la cosa è questa. Pagato da Del Debbio. Pagato da Del Debbio per fare aizzare il pubblico di studio contro la sinistra. Sei pagato da Del Debbio. Pagato da Berlusconi per aizzare il pubblico di Del Debbio contro la sinistra. Vergognati. A libro paga di Del Debbio. Beh, sì, in parte, vergognati. In parte, sì. L'unica trasmissione italiana in cui i conduttori si autodelegittimano. Ma è una cosa incredibile. Incredibile. Cioè noi stiamo assistendo a un Trump impazzito che sì. Si alza una mattina e sgancia una bomba sull'Iraq e pensiamo che domani mattina non possa succedere a noi. Non può succedere a noi. Amica mia, te lo dico, non può succedere a noi. In ogni caso, questa era un assaggio di sardina, una sardina al giorno, e vedrai che le cose possono cambiare. Fermi tutti. D'accordo? Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo, alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Allora Crucio, io faccio parte del Domenico Bini Fan Club da almeno un anno e mezzo. Ti prego, metti a disposizione la chiamata che hai fatto online. Ti prego, fallo per noi. Brava Marcella, hai combattuto bene. Quei due cretini non hanno capito un cazzo. Non hanno capito che un bambino di 8 anni non può andare da solo dove l'hanno trovato morto. Qualcuno ce l'ha messo. Coglioni. Mm-hmm. Beh, questo è chiaro, eh. Questo è chiaro, qualcuno ce l'ha messo. Questo a 14 anni è entrato nella stiva di quell'aereo all'aeroporto di Abidjan in Costa d'Avorio. La cosa incredibile è che c'è qualcuno che io non leggo, leggo solo quando vengono riportate alcune sue frasi, che si chiama Roberto Saviano, che sul quotidiano La Repubblica mi sembra, mi dicono, mi sostengono, mi raccontano, abbia scritto una cosa, abbia scritto che la colpa sostanzialmente è nostra, che ci dovremmo sentire in colpa noi in Europa, ci dovremmo sentire così, ci dovremmo, come sicuramente, no, come no, assolutamente, leggo, dovremmo sentire in colpa noi in Europa perché un ragazzo di 14 anni probabilmente con l'accordo dei genitori, non aver fatto le rotte con legali, l'accordo certo, dei genitori, no, o addirittura col sostegno dei genitori, ma in Costa d'Avorio c'è la guerra, stato, ragazzi, sì. Ma quale Costa, ma quale guerra in Costa d'Avorio? Che si cazzo scappa, dici? Si scappa dalla povertà, dalla miseria. Quella è un'altra cosa, ma la guerra non come c'è in Costa d'Avorio. Come scappavano da Cuba verso Miami, scappavano da Cuba verso Miami. Ma non è la stessa cosa. Sei la Costa d'Avorio è un paese ricchissimo dove in pochissimi il dittatore un altro discorso hanno risorse. Ma questo è un altro discorso. La stragrande maggioranza delle persone vive, muore di fame. Nessuno, quindi la gente prova a scappare. Sentire in colpa nessuno noi in Europa del fatto che magari dei genitori sconsiderati hanno consentito a un quattordicenne di mettersi dentro ma la stiva di un aereo. La morte di questo bambino, ma lascia perdere che colpisce, ma perché dovrebbe essere colpa nostra? Fame, ma io non mi sento in colpa gelare, per niente. Ibernare vivo su un aereo, ma io non mi sento in colpa per niente. I genitori che consentono di niente, che un ragazzino, nulla, ma perché tu ti senti in colpa, tu ti senti in colpa perché no, il senso di colpa è astratto, ti senti in colpa o no? Ti senti in colpa o no? No, non ti senti, giustamente uno si sente in colpa per le cose che gli sono più vicine, tanto più sono, no, lontane, è senti, difficile provare empatia, emozione, lo capisco, non ti è senti evidente in colpa, non ti senti in noi colpa. Ci sentiamo in colpa per le cose che accadono ai nostri prossimi, ai nostri, ma questo è un meccanismo quello normale. Ma non ti senti, quindi in colpa. Quando lui parla di senso di colpa non è che parla di un generico, di un personale senso di colpa mio, tuo, è un generico senso di colpa politico dell'Europa, è astratto. Fermo. Prova a fare un passo oltre il tuo naso, ma non dire stronzate. Nella Spatalino, fermo, voglio sentire Spatalino, altro che Spatalino. Aridatesce Giorgio Almirante. Ma che c'entra Almirante, però? Scusa, perché Spatalino invoca il ritorno di Almirante? Non si capisce. Ridateci Giorgio Almirante! Ah, contro Gigino Di Maio. Altro che questi venditori di noccioline che vanno in giro per il mondo a collezionare brutte figure. Ah, la storia della politica estera. Saremo islamizzati! Sì, ma da chi? Ve lo dice Enzo Spatalino! Ah, bello, io vi assisterò dall'alto! Marchio se ne qualità. Avrò la possibilità! Quando penso che a rappresentarci all'estero c'è l'ex bibitaro dello stadio San Paolo di Napoli! Mamma mia! Che sciagura! Però qui dice le stesse cose che dici tu, eh? Cioè non è che dice cose diverse, dice no, le stesse cose che dici tu. Senti, io non voglio infierire sulla pazienza di chi ci sta ascoltando. E ti posso mettere Prodi che sostiene Bonaccini. Vuoi sentire Prodi? Vuoi sentire Prodi? Intervista al Corriere. Ma lo vuoi sentire o no Prodi? No, un audio di Prodi. Lo vuoi sentire o no? Mi piace da morire, tutto Prodi voglio sentire. A te piace Prodi? Uno dei migliori presidenti del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto. Lo ribadisco, ma senza dubbio. Se tu vuoi sentire l'audio di Prodi, tu mi dici. No, tutto Prodi vorrei sentire io. Prodi, tutto Prodi. Tutto, cioè invece della zanzara a mettere Prodi per 10 minuti. Io lo sentirei in continuazione, solo Prodi in loop lo metterei proprio. Ce la fa Bonaccini, quasi rischia di perdere l'Emilia Romagna. Ma è certo che ce la fa. È certo che ce la fa. C'è una carica, a me piace per morire. Bravo, che è proprio perfetto per l'Italia. Però una sola cosa, i cittadini, no, che stanno nelle piazze con Salvini mi dicono che le esigenze sono in Emilia sicurezza, sanità e lavoro. Ma cos'è che ha sbagliato la sinistra? Guardi la classifica della sanità, siamo tra i primi. Nei primi. Sicurezza, siamo sicurezza. Tra i primi. Lavoro, abbiamo la miglior disoccupazione che ci sia in Italia, cosa vuole di più? Secondo me non è un grande spot per Bonaccini, questo qua secondo me non è contento. No, lui ha ricordato Bonaccini. I dati. Non è... Prodi ha ricordato i dati dell'Emilia Romagna Felix. Qual Andrea è la situazione? Andrea da Bergamo, sì, adesso state tu dipingendo per propaganda attaccare. Questa, state dipingendo l'Emilia Romagna come una sorta di Bengodi. Non funziona. Come, ma qualcosa funziona, funziona, qualcosa non funziona. Tant'è che come sono tutte le cose. In Emilia Romagna a fare una campagna elettorale in due, perché da Borgonzoli da sola, evidentemente non è che c'è, come quello va sempre a fare tutta la campagna elettorale. Bologna con Ferrari. Ferrara, Ferrara con Bologna. Ha messo una foto di un'altra città. Vabbè, tutto uguale, vabbè. Da Bergamo, vai, da Bergamo, fosse quello il problema. Bergamo, Andrea da Bergamo. Vai. Buonasera, dimmi, buonasera. Dimmi. Buonasera signor Cruciani, buonasera. Dai, basta questi buonasera che ci hanno rotto il cazzo, dai, su, ma che allora, palle. Allora, in media stress, andando subito, il Tribunale del Perdono quando fu costituito in Sudafrica, ancora, le persone che per ultime andarono a chiedere scusa furono gli studenti universitari che avrebbero avuto gli strumenti intellettuali per combattere l'apartheid e non lo fecero. Vabbè, ma che c'entra questo? Scusa, c'entra benissimo con questa ipotesi del senso della responsabilità e di bravo, colpa. Che... bello questo, bravo. Ma non abbiamo perché nessuna responsabilità e noi in Europa del fatto un ragazzino di una cosa molto intelligente che sta risorse. Ma cosa? Data che l'80% delle risorse le sfrutta il 20% della popolazione. Ma sono i governanti parassiti e corrotti dell'Africa spesso. Questo la colpa è un altro problema. Ma è sempre un altro. Diritto... senti, se no, tu ti perdoni, senti in colpa perché un ragazzino di 14 anni, come devo sappiamo... sentirmi in colpa, non è che voglio ti sentirmi. Senti in colpa? Devo no. Sentirmi. Ah, tu ti senti in colpa? Sono devo cazzo. Vai, in colpa. Vai a pregare, vai a confessarti. Ma no, se no, sei cattolico, se ci credi, così non vai si a confessarti. Ancora di più. Oppure ma vai no. In Africa a risolvere i problemi, che cazzo ti senti in colpa a fare? Fai qualcosa. Questo può essere uno strumento. Ecco, appunto, vai in Africa e non rompere i coglioni. Però volevo intervenire ma è il principio che è sbagliato. Ma è il principio che è sbagliato. Dobbiamo essere consci che abbiamo l'accesso all'80% delle risorse e siamo al 20% della popolazione. Poi, no, poi, no, signor Cruciani, è fondamentale. Poi, i porti devono essere per definizione aperti. Ma quando mai? I porti sua, sono sempre chiusi. I porti. I porti sono sempre mandate, chiusi. Sempre i porti aperti. Sono per definizione chiusi in tutti i paesi. In tutti Cruciani, i paesi i porti sono sbarrati. Ma dove li vedi i porti? I paesi fanno i cazzi loro. Tutti guardi i paesi. Che non esiste, ma come non no? Esisterebbero le vicende per cui. Il Tribunale dei Ministri può forse giudicare quello è un altro quando discorso. Avrà fatto tutte le valutazioni ma del caso. Ma quello è un altro discorso, Andrea. I porti, per definizione, ci sono i controlli. La gente in... ma prova a entrare, certo. Prova a entrare, prova ad avvicinarti con ma un no. Barcone al porto di New York. Vediamo come finisce. Giusto, vediamo ma... come finisce se ti avvicini al porto di New York con un che barcone. Vuole. Vediamo ma come finisce. Dai, sì, d'accordo, ma sta parlando. Dai, ma anche Spagna, vai a vedere come finisce. Non finisce come pensi tu. Non è che ti dici. I tappeti rossi, venga, lei ha bisogno, beh, viene dall'Africa. Abbiamo capito che non li stenderemo mai. Dai, dai. No, i tappeti rossi Maurizio cosa, da Lucca, ma Maurizio da Lucca, vai. Ciao, ciao, Maurizio, dimmi. Sì, ciao, Cruciani. Dimmi. Ma guarda, ascoltavo sto signore qua, adesso io ho chiamato per un'altra cosa, però so, mi piacerebbe sapere se lui stasera chiude la porta di casa o la lascia aperta. Ma cosa vuol dire? Ha ragione, perfettamente, che discorso molto semplice, logico. No, discorso molto, molto basico, discorso basico, tra la casa e lo Stato, ma che fesseria. Paragone perfetto, paragone perfetto. Paragone comprensibile e perfetto. Fatto, casa tua la tieni chiusa? La tieni chiusa? Dici di non aprire. Contro, chi dice di non fare i controlli? Infatti, gli altri, ma chi dice di non fare i controlli? Voglio sapere chi è il cretino che dice di non fare i controlli. Non ma tu vorresti tutt'altro. A parte che i migranti quando arrivano si controllano e poi sbarcano. Quindi dite delle sciocchezze. Parliamone. Fermola. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. Air France. France. La France. Is in the air. Fino al 27 gennaio lasciati tentare da San Francisco in economy da 458 euro. Con le nostre offerte oh là là, scopri il mondo a prezzi vantaggiosi. Oh là là, ma che fai ancora là? Air France. France. La France. Is in the air. Acquista fino al 27 gennaio per voli dal 15 gennaio all'11 aprile e dal 2 al 21 maggio 2020. Tariffa andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Esempio in partenza da Roma. Info su airfrance.it. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4Matic del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di eco incentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5 e con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri. Come iPhone 11 128 giga a soli 789 euro. MediaWorld, fatto apposta per me. Fino al 19 gennaio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a gennaio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAIG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. Zanzara. Donato, posso farti una domanda in maniera educata? Ieri sono morte delle persone, sono morte delle donne e dei bambini al largo di Lampedusa. Non mi interessa un cazzo! Ah, non provi niente, non provi niente di fronte alla morte di bambini, tu non provi niente. No, non provo un cazzo! Non provo pietà perché il mio cuore è già abbastanza umano per pensare ai miei cittadini, non agli africani, quel popolo fallito. Gli africani sono dei popoli falliti, non provo un cazzo. Lascia perdere africani! Dovrebbero suicidarsi la setta satanica del PD che ha aperto i porti su ancora il business. Impotente da Varese. Impotente da Varese. A tua manca la dignità, tu non fai la dignità. D'accordo? Guardi, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fare l'800240024, oppure se volete mandare i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Ciao Giuseppe, ciao David, volevo dire a quest'ultimo, mi fa divertire un sacco, ma a volte ne spara di cazzate, che qui in Australia i genitori la sera portano i bambini in giro con torce e sacchetti di plastica per catturare le kentods, questi cazzo di rospi importati qua per tenere pulite le canne da zucchero. Li catturano, li mettono in congelatore, crepano, quelle merde crepano, e la mattina via, spazzatura, così si fa. Qui sanno gestire tutto, sono più avanti di noi, non come in Italia, non si capisce mai un cazzo. Un abbraccio ragazzi, andate a fare in culo. Quindi se vogliono ammazzare dromedari e cammelli che sono stati importati qui anche loro nel passato, e bene venga, che li facciano ammazzare, salvino le pelli, che magari si scopre pure che la carne è buona. Fanculo tutti quanti, animalisti del cazzo. Allora, non so se ti è capitato, questo ascoltatore chiamava dall'Australia, mandava dei messaggi dall'Australia, esattamente credo dalla zona di Darwin, penso, dalla zona di Darwin. Bene. Non era certamente animalista, giustamente lì la lotta spesso è tra l'uomo e l'animale, è questione spesso di sopravvivenza. E le persone normali, le persone non fanno il tifo per gli animali, fanno il tifo per gli esseri umani. Ci sono dei paesi, delle zone estreme dove c'è una lotta feroce tra l'animale e l'uomo. E l'uomo uccide l'animale quando deve sopravvivere. Lo stesso fa l'animale, naturalmente. Ma per chi bisogna fare il tifo? per quelli che dicono che l'essere umano va, deve estinguersi. Non è questione di tifo, è questione deve... di ragionare, ragionare caso per quello caso. Vuole ragionare. Molto viene un animale addosso, ragionare. Deve ragionare. Ma no, adesso guarda, viene l'animale addosso. Puoi ragionare, mi con l'animale. Un ombrello. Puoi ragionare con l'animale. Ma no, io so anche quando. Guarda, una volta solo mi è capitato di scontrarmi con un topo. Una volta solo mi è capitato di scontrarmi con un topo, è uno di quelli che mi fa proprio. Di uscire? Mi hai detto di uscire da casa? Ho preso molto semplicemente un simpatico ombrello che avevo a portata di mano. E stavi tentando, e con giustamente un certo vigore, mi fa schifo, Tom, mi fa schifo, sarà leggero, questo credo che sia. Beh, con molti, un certo vigore, molti ti direbbero, come sai, molti ti direbbero. L'ho allontanato, l'ho, come dire, allontanato dalla zona in cui stavo io, cioè usavo, non gliel'ho dato in testa, lo usavo come, si chiama dissuasore tecnicamente, no? Si chiama dissuasore tecnicamente, lo battevo a terra spaventandolo, sì, nel frattempo un'altra persona presente ha aperto la porta e il ratto e quindi è stato indirizzato ad andare verso la casa dei vicini, quindi da un'altra parte sostanzialmente. Allora, è successa una cosa in Calabria. Gira sull'internet da ieri un video con un signore, un candidato della Lega al Consiglio regionale della Calabria, un tale Alfio Baffa, già il nome è tutto un programma, signor Alfio Baffa, il quale agli amici del gruppo Revenge Porn, boh, non lo so, un gruppo di amici che si scambiavano video su WhatsApp, però chi se ne frega, manda un video in cui lui, dopo un comizio di Salvini a Roma, è dentro una vasca da bagno e si fuma un sigaro grasso, ciccione, dentro la vasca da bagno. Non è un delitto essere di ciccione. Partito, con che partito si presenta? Lega, scusa, della Lega. No, qui a Roma non, c'è, non si sente, va via la linea. Della allora Lega. Tu hai descritto un signore con un grasso, nudo, grasso e ininfluente, ma nudo, dentro una vasca da bagno, con un che sorseggia rum o whisky. Ecco, ma non si è sentito per quale tipo partito? Al Capone, sì, tipo Al tipo Capone. Al Capone. Ma non si è sentito qui a Roma, al io Capone, almeno. So, per quale partito? Per quale partito si della presenta? Della Lega si presenta al Consiglio regionale. Dalla Calabria per la Lega. Come? Che sei uno strozzo. No, ma della no. Lega. Ma guarda che a me non me ne frega un cazzo della Lega, né di quella nazionale. No, della guarda, Calabria. Va via la linea. Tu dici, a un certo punto dici una parola e va via la linea. Io non sento. Si presenta per la Lega. Per la Lega. No, per non la... si sente niente. Ripeti perché non si sente. Allora, Alfio Baffa, candidato al Consiglio regionale della Calabria, che fa girare un video, comunque hanno messo in giro un video in cui è in una vasca da bagno, fuma un sigaro e sorseggia rum o whisky e dice sono qui, ma sentiamolo, si candida per la Lega, questo mi toglie, no, non si sente. Mi toglie l'audio con lo strozzo, perché vedi, non si sente, no, è chiaro, c'è un dovete problema. Far sapere a tutti Italia che già sa che questo signore si candida per la Lega, ma chi se ne frega, certo, lo dico pure io, Salvini, dovresti prendere a pedate nel culo questo signore, ma non per il video, secondo me. Perché insomma non si possono imbarcare tutti. Questo signore qua fino all'anno, un anno e mezzo fa era con 5 Stelle, prima stava con Berlusconi, prima stava non so con chi, con Verdini, mi risulta. Però cioè, fatto sta, oltre tutto questo, questo signore nudo in una vasca da bagno si candida per la Lega, per la... D'accordo, d'accordo. No, no, ma per carità, no, ma sentiamo, si sente poco l'audio, ma è significativo, senti. Cari amici del gruppo Revenge Porn, volevo fare un saluto da Roma dopo la manifestazione di Salvini in Dotta del Relax dalla mia stanza d'hotel. Faccio un brindisi con voi. Salute, ci vediamo presto ragazzi. Tu dirai populista, sovranista, stai in una stanza d'albergo, in una stanza d'albergo a Roma, in una vasca jacuzzi idromassaggio molto probabilmente, con un sigarone cubano, perché là vedo che è un sigarone cubano, e una boccia di whisky o di rum, di non so quale liquore. Non tu dici fare... sovranisti in una stanza d'albergo. Io non voglio, sicuramente no, l'ultimo degli non alberghi. Non voglio fare commedie, qualunque cosa dico poi... Invece mi basta il racconto, a me mi basta la settica notizia. Un signore molto grasso, nudo, buttato in una vasca da bagno con un sigaro enorme e il rum in mano, che fa propaganda per Salvini ed è candidato nella Lega. Questa è la notizia, non occorre, guarda, mettere fronzoli con me. Basta il fatto. Tu dici basta guardarlo in faccia. Non occorre... Tu dici guarda, basta fidati. Anche guardarlo in faccia. No, in faccia. Non bisogna mai infierire, perché la notizia ci hanno insegnato, è una notizia, è asettica, è una notizia, non c'è, capito? C'è bisogno Alessandro di fare... da Milano, vai Alessandro, dimmi. Eccomi. Ciao ragazzi, allora volevo dirti, Crucio, tu guarda, hai detto una cosa molto sbagliata l'altro giorno, pur stimando ti hai detto una cazzata. Ma allora, sì, capita, tu le droghe. Capita di dire cazzate. Capita. C'è gente che pensa di non sbagliare mai, fanno... C'è molta gente che nell'ultimo periodo, ho visto, soprattutto sull'internet, sì, e sono quelli con, sempre con il ditino alzato, sempre a fare i professori, no? Hai sbagliato questo perché mandano giù una serie di citazioni di cose prese. La notizia è questa. Questi qua sono quelli che più mi scassano i coglioni. Cioè, mi fanno venire i coglioni pazzeschi. No, per se cioè, non è che innanzitutto ci sono le opinioni e le notizie. Sì, ho capito, ma non è che. No, però i fatti vanno tenuti distinti dalle opinioni. Cerchiamo di. Perché sennò si fa confusione. No, ma perché così vabbè, spesso dimmi, invece dai. I piani si confondono. No, mi stanno sulle palle quelli che pensano di non sbagliare mai, capito? Cioè, quelli che fanno i correttivi. Quelli quindi che non correggono è una banalità. Gli altri. Mi stanno non sul è cazzo. Quel signore della Calabria. In una vasca da bagno nudo con un sigaro sì, e lui sì, è un fatto. Fatto. Grazie, no? Poi, se volete, la mia opinione ve la dico, ma non serve in questo caso, Alessandro. No, beh, tu lo reputerai volgare, come no? Eccezionalmente, Alessandro, dimmi. Crucio, tu l'altro ieri hai detto che bisognerebbe legalizzare qualsiasi tipo di droga. Ora è una cazzata. Ti no, ma io non ho detto questa attenzione. Io ho sempre detto un'altra cosa. Qualsiasi tipo di droga hai detto, no, certo. Ho detto questo. Io sono favorevole alla legalizzazione della marijuana e della droga leggera. Dopodiché, ti spiego anche perché la droga leggera. Avendo accertato ormai da anni, se non addirittura da decenni, la facilissima possibilità che un ragazzino si procuri anche la cocaina, come abbiamo visto a Milano, c'è cioè un floridissimo, per fare un esempio a Milano, ma si può estendere a tutte le città. Sì, certo, se tu certo. hai bisogno della cocaina, basta un numero di telefono e ti portano a casa certo. la merda, la roba tagliata male, eccetera, eccetera. Allora a quel punto un pensierino, ho detto, si potrebbe fare anche per la cocaina. Ora cosa vuoi okay, da me? Non sto dicendo una follia, sto dicendo una cosa che... Tutte le droghe, sia perché anche la marijuana. Vabbè, tutte le droghe, adesso avanti, dimmi. Allora, numero uno, molto un ragionamento etico questo. Lo etico. Stato non può permettersi. Non c'è etica. Che il esatto, vabbè, allora questo te lo salto. Ma allora, l'etica non uno. Può esistere in questo caso. L'etica non c'è, qui c'è la praticità. Vabbè, allora salto l'etica. È da anni, cioè, hanno fallito. La droga è diffusissima ovunque, diffusissima ecco, di tutti i tipi. Allora parliamo di fatti. E allora hanno fallito tutte le altre politiche, no? Quelle proibizioniste hanno tutte fallito perché se la droga è aumentata, il consumo è aumentato, sempre più ragazzi si fanno di droga, di marijuana, di eroina, di cocaina, di pasticche, di allucinogeni, di quello che è, di crack, eccetera. Significa che tutte le politiche che adesso abbiamo fino adesso abbiamo messo in atto sono tutte sbagliate, no? Cerchiamo di... Non del tutto, non del tutto. Tutto. Allora, non del tutto. Per produrre coca, la coca si produce in Colombia, Bolivia e Perù. Vabbè, allora, ma che vuoi tu? Che cosa vuoi dire? Non ho capito perché è sbagliato legalizzare. No, andiamo dire che è una stronzata perché favorisci i terroristi che la producono, non è vero che c'è la distribuzione dei poliziotti. Non è vero che c'è una discesa del consumo, anzi tutt'altro, quelli che sostengono il contrario. A parte sono che il consumo, nessuno dice criminali. Che bisogna limitare il consumo. Nessuno dice che bisogna limitare il consumo, quello è un altro discorso. Beh, no, assolutamente, non sei in mano ai criminali in alcuni casi. Vai, in Colorado sì, non c'è uno spacciatore illegale, non mi risulta che c'è uno spacciatore illegale. Segue la legge del mercato e quindi Francesco da Barletta, sì, ho capito. Francesco da Barletta. Cruciani, buonasera. Dimmi, senti, dimmi. Due cose, ti volevo dare pienamente ragione sulle sardine, perché ieri ho sentito Santori da Formigli il nulla assoluto, ma più che altro io direi anche io aggiungerei un'altra cosa, il nulla cosmico, cioè sì, non solo intanto, nulla, ma nulla cosmico. Migliaia di persone in piazza, sarà anche il nulla, ma migliaia di persone in piazza, voglio che dire. C'entra? Ma sei tu il primo a dire che non contano quelli che vanno in piazza quando parli di Mussolini o della Lega, mi sembra molto semplice, cioè voi chiedete un ragionamento complesso politico da una persona che non fa politica. Ma che invece ha creato attorno a sé un movimento spontaneo di indignazione popolare. Tu hai il coraggio di dire che quel signore lì, Santozzo, San Cazzo, non è un professionista della politica. Ora ma che cazzo dici? Fa politica! Ma non è un professionista, non è un mestierante alla Salvini di politica. Ah, perché mestierante solo Salvini, è un mestierante, alla Salvini, a tutti gli altri, alla Meloni, alla stile Bonaccini. Non è un mestierante. Ecco, non è un mestierante, diciamo, tu cur della... Ma no, Bonaccini sicuramente... sicuramente un mestierante. Allora, tutti sono quei politici, non ma sono mestierante. La sardina in oggetto a cui tu attribuisci chissà quale valore, quale ruolo, in realtà è un ragazzo che assieme ad altri amici ha messo in piedi questa ma cosa. Fa politica. Si trova poi, certo che fa politica, ma si trova catapultato nel sistema si delle trova, televisioni si è dei giornali. Catapultare, mica, sì, mica obbligato. E allora gli volete da lui che parli come un capo di Stato. Io vorrei che dicesse rimani il ragazzo che proponesse di prima. Una cosa. Però Francesco, dimmi, allora intanto ci ha proposto di portare in piazza le persone. Io ciò che volevo dire è che non argomento argomenta nulla. La cosa che mi preoccupa è che se questi ragazzi sono la classe politica dirigente del futuro, io sono molto preoccupato. Ma basta sentirli per strada, basta sentire quello che dicono. La mia classe politica è quello nudo nella vasca da bagno, scusa. Ma che dici? Ma certo, effettivamente tra la Sardegna e la Sardina. Ma voglio dire che la classe, la differenza è che la Sardina non è candidata. Quello nudo nella vasca da bagno con il sigaro in room è candidato. Cioè, voglio dire, me la tirate fuori, mi fate esprimere un commento, ve lo dico allora. Criticate la Sardina, io voglio. Mi alzo in piedi. Voglio una trasmissione di Mario Giordano, del tuo amico del Debbio, di cui sei consulente pagato. Una trasmissione. Voglio una trasmissione in cui Mario Giordano ricostruisce in studio quella cazzo di vasca da bagno, ci piazza dentro nudo il candidato della Lega col suo sigolo in room e fa il suo comizio dalla vasca da bagno nudo. Questo voglio. Questo voglio martedì da Mario Giordano. Questo è essere fuori dal coro ma dentro la doccia. Questo è. Voglio vedere questo. Quando avrò visto questo, vi autorizzerò a criticare il discorso delle sardine. Ma io prima voglio vedere questo su Rete 4 in prima serata. Questo. La vasca da bagno. Dai. Fermo là. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Posso aiutarla? Cercavo lo scaffale del biologico. Ma noi di Conad abbiamo molto di più. Abbiamo scelte di benessere. Una scelta di prodotti per star bene con se stessi senza rinunciare al gusto. Come le bevande vegetali Verso Natura Bio Conad da un litro con sconto del 25% su tutti i gusti fino all'11 gennaio. Conad. Persone oltre le cose. Cerco donna sexy, tenera e divertente e avventurosa e amante del calcio, ma che mi faccia anche un po' da mamma. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio Panda da 99 euro al mese per i primi due anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645 TAG 939. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Allora facciamo che io ero un architetto insieme a Sara, che è brava a disegnare, e viaggiavamo dappertutto e avevamo tante spese, le fatture da pagare, le trasferte. Ma forse questo mese possiamo posticipare i pagamenti. Così ci concentriamo sui nuovi clienti e facciamo crescere il nostro business. Fai diventare grande la tua piccola impresa. Scegli carta Oro Business American Express e scopri i vantaggi per il tuo business. Richiedila su americanexpress.it per te fino a 250 euro di sconto sulle spese aziendali. Messaggio promozionale info su americanexpress.it/business. Doc 12 Melos. Doc Urban Melos. Doc Eco 3. Tre nuovi monopattini elettrici. Tre soluzioni green per vivere la tua città su nilox.com. La Zanzara. Eccoci. Un abbraccio, buona serata, ciao. E forza il Duce. Forza il Duce, ti abbraccio Giuseppe. Cruciani, per favore, io te lo chiedo veramente per favore, quando ti chiamano i medici che vogliono parlare della cannabis e hanno più di 60 anni, non farli parlare, non farli parlare, perché quella gente lì, l'ultimo libro che ha letto era 45 anni fa, da 45 anni, cioè loro per primi dovrebbero saperlo che la medicina avanza di minuto in minuto. Basta paragonarmi la cannabis all'ecstasy e la cocaina, basta, siamo nel 2020, basta, avevo 14 anni quando ne parlavano così, ne ho 35, basta. Siamo tra i primi, sicurezza, siamo tra i primi, lavoro, abbiamo la miglior disoccupazione che ci sia in Italia, cosa vuole di più? Pronto? A Allora, grande proposta di Parenzo a Mario Giordano. La proposta di Parenzo a Mario Giordano è articolata in questo modo. Sì, abbia il coraggio. Una sorta di autore occulto io della, abbia della, il coraggio, del coro. Abbia il coraggio. Abbia il coraggio di ricostruire in studio, di fare in studio una grande vasca da bagno, sì, enorme. Sai, la faccio io lunedì, secondo me. La faccio io lunedì. Adesso mi è venuto in mente di fare qua. La faccio io lunedì. Cioè, voglio condurre, voglio condurre in vasca da bagno. Mezzo nudo, mezzo nudo con lo whisky, col rum, whisky, cazzo, sì, che è, sì, un sigaro in mano. Nudo, in studio, nudo, dallo studio, nudo, dallo studio della Radio 24, in vasca da bagno. Allora devi trovare una marchetta, cioè, dici, di uno devi... che ti porti la vasca da bagno. Esatto, prima, sì, la vasca prima da marchetta, sì, che dovrai, esatto, fare. Dunque, poi, ragazzi, finirà a casa tua come al solito, come la pelliccia, come tutto quello che hai fatto. Non ho bisogno di una vasca da bagno. Che ti sei fa... basta andare a Napoli, basta andare vai a Napoli e chiedere a qualcuno che invece di buttare dai balconi in periferia. In questi 10 anni hai fatto, perché ti sei costruito una casa, questo va detto, tutta fatta da marchette. Io, piena di sexy shop, di robe. Il cibo che ti sei fatto portare in questa rete ogni sera per mangiare, sbarcare il lunario praticamente. Quando facevi quelle performance col coniglio, quelle robe che cucina, che e ti facevi portare il cibo dalla gente, dai migliori ristoranti, era per non pagare la sera il cibo. Impazzito. Una cosa vergognosa, incredibile, incredibile. Vabbè, comunque, adesso bisogno. Ti puoi fare la vasca da bagno, sì, e quindi hai deciso di farti tua la vasca in da bagno, studio, ma guarda. Nudo, comunque, nudo con un sigaro, con, sì, un sigaro, sì, e con, sì, il rum qua. Però il tuo invito, il tuo invito è Mario Giordano, in realtà. No, Mario Giordano abbia il coraggio di prendere per il culo il Calabro. No, sì, no, dovrebbe invitare il Calabro in trasmissione. Fallo. Farlo spogliare, mettere dentro la vasca da bagno e intervistarlo dalla vasca da bagno, oppure viceversa, fare lui la famosa intervista a Salvini come fa tutti i martedì dalla vasca da bagno, loro due nudi. Una volta non portava Meloni e Salvini al cinema, sì, ti ricordi, sì, che faceva, sì, quella, sì, cosa, sì, divertente, anche geniale, sì, a suo modo, lo facesse dentro la vasca da lo bagno, lo facesse entrambi entrambi nella vasca da bagno. Non vogliono mettersi i due, due, oh, sì, ma è la realtà, vestiti, la realtà. Ma è davvero in questo caso è davvero la realtà, però, allora, perché... Rocco da Bologna, fermi tutti, Rocco da Bologna, intanto me la volevo prendere, scusa Rocco, un secondo, me la volevo prendere con un simpatico amico. Beh, che chiudiamo, fa il... dai, che tanto sono le 18:38, la ancora, gente già, siamo ancora nel vivo. Venerdì la gente, allora, è già andata tutta in vacanza. No, ma che cazzo dici? Allora, sì, c'è posso... chi è andato a sciare, oh, a Cortina. Mi fai parlare o no? Vabbè, parla. Mi fai parlare o no? Come se non parlassi mai, parla, di quello che vuoi, parla. Allora, un simpatico amico che si chiama, credo, Ugolini, che non è quello di Sky. Il conte Ugolini. No, è un macellaio di Riccione. Il quale ha avuto la geniale idea di fare una pubblicità nei giorni scorsi in cui c'erano due culi di donna, uno sodo e l'altro un po' flaccido, un po' grosso. E voi direte che cazzo c'entra con la macelleria? C'entra, perché la scritta sopra era: la carne non è tutta uguale, sotto macelleria Ugolini. Pubblicità geniale, cioè dire, ci sono carni e carni. Cioè la carne noi vendiamo vuole dire carne buona, carne ottima, di qualità ottima. E dunque un bel culo è diverso da un culo flaccido. È fattuale, direbbe qualcuno in quel di Bergamo. Se la son presa con lui dicendo un sessista, il corpo delle donne paragonato a carne da macelleria, una cosa disgustosa, la misoginia. Tu ovviamente sei di quella di questa gente qua, sì, appartiene a queste gente, persone qui. Gente, sì, mi pare una questi rincoglioniti che criticano una pubblicità. Ma lo sai la cosa grave? Qual è? No, non è tanto... ma è cattivo, proprio il famoso classico cattivo gusto, sì, e l'inopportunità. La realtà è che questo qua ha fatto una pubblicità geniale, ci avrà anche pensato, si sarà messo a ridere giustamente. Non offende nessuno, perché non c'è una persona vera e propria. Cioè mette due culi a confronto e dice la carne non è tutto uguale, che è anche fattuale. Poi si vergogna di averlo fatto e dopo le critiche si tira indietro e cala le brache dicendo: ah, mi pento, mi scuso se ho offeso qualcuno, ritiro questi cartelloni pubblicitari. Ma dai, su, bisogna stare a cazzo dritto in questi casi, su, ma cosa tenere c'entra? La barra dritta avanti tutta, non dritta? Calare le brache di fronte ai critici, a questi rincoglioniti che ti criticano, dai. Rocco da Bologna, dai Rocco, dimmi. Allora, ciao Cruciani, saluto, dimmi, anche Parenzo. Dimmi, Rocco. Grazie caro, buonasera e benvenuto. Allora, io volevo parlare, mi riallaccio un pochino a quello che è stato trasmesso stamattina, insomma, sì, perché si è parlato di, diciamo così, di Sugar Daddy. Ah sì, nella trasmissione di Nicoletti, sì, esatto, di Sugar Daddy, sì, cioè di allora persone, cerchiamo di... provocatorio, sì, no, volevo chiarire, ma non volevo... neanche provocatorio. Aspetta Rocco, sì, sì, no, volevo dire che si parlava degli Sugar Daddy. Gli Sugar Daddy sono, argomento da noi trattato più volte, sono coloro che mantengono sostanzialmente una ragazza, sono degli uomini, un po' avanti negli anni, Sugar facoltosi. Daddy, papà, dolce papà. Esatto, Rocco, che cosa volevi dire? È un modo di dire, però comunque è un po' più articolata la cosa, non è che proprio mantengono. Comunque diciamo che è una figura, diciamo, di uomo facoltoso, se vogliamo, relativamente attempato, ecco. E così. Però io l'ho rivoltato un po' provocatoriamente nell'altro senso. Cioè, diciamo, cosa vuoi dire? Che esistono pure quelli che mantengono gli uomini? Sicuramente ci sono tantissimi ragazzi giovani che vogliono il papà. Il paparino, diciamo il paparino, ecco, per il paparino, e il paparino che vuole il ragazzo giovane. E il paparino che eventualmente. Ma come sfociano queste? Come, che dinamiche hanno queste relazioni? Credo che lui, Rocco, sia uno di questi, se non sbaglio. Sì, io mi riallaccio al discorso che è stato fatto stamattina, perché comunque parte tutto dalle chat. Cioè, l'internet propone molte cose, però. Cioè, diciamo, però riassumiamo la cosa, scusa, Rocco, tu quanti anni hai? Quanti anni hai? Io ho 56 anni. Diciamo che, vabbè, insomma, posso essere abbastanza facoltoso, ma questo è relativo. Mantieni qualcuno? Io più che mantenere, mi è capitato in più occasioni di fare dei regali, insomma. Ma tu frequenti chat e paghi delle persone per fare sesso? Nelle chat, cioè, a parte che c'è di tutto, ma c'è di tutto, certo. Ci sono molti, ecco, per esempio, ti faccio un esempio pratico subito, velocissimo. Verso le 5 ho aperto la chat, ho trovato due messaggi, uno di un ragazzo di 18enne. Ma la chat di cosa? Chat dedicate per adulti gay specifiche, nei quali tu fai un profilo semplicemente, metti la tua faccia oppure no, però insomma descrivi quello che ti interessa fare, eccetera. Ricevi eventualmente messaggi da altre persone. E tu cosa hai scritto sul tuo profilo? Niente, ma abbastanza generico, se vogliamo, però siccome ho messo la mia faccia, qualcuno ti può anche contattare perché gli interessi. Sì. Può essere un interesse anche molto epidermico. No, magari pensavo che tu avessi scritto. Ti trova. No, pensavo che avessi scritto, che ne so, che sei disponibile a pagare, a mantenere delle persone. Diciamo che io posso anche aver messo nella mia definizione, fra le altre cose, anche sugar daddy. Nel momento in cui faccio questo, mi arrivano magari messaggi da qualcuno interessato, ragazzi giovani, avvenenti, se vogliamo. Però ritorno alla domanda, mantieni qualcuno attualmente? Io attualmente non mantengo qualcuno, ma mi è capitato in varie circostanze, per esempio? Soprattutto con una persona. Ma io conosco un ragazzo che da giovane. Ma cosa succede? Aspetta, io non riesco a capire come si trasformano queste relazioni, però cosa vuol dire mantengo e basta qualcuno? Poi c'è del sesso o no? Beh, certamente c'è un incontro che può sfociare anche nel sesso se si è reciprocamente interessati, però resta il fatto che un ragazzo giovane può avere anche necessità, può avere situazioni più o meno complesse nella sua vita. Lui era stato cacciato di casa perché i genitori di matrice molto cattolica hanno scoperto che era gay, si è trovato a dover interrompere l'università, a dover trovarsi in mezzo alla strada. Allora, chiaro, se uno ti aiuta, ti dà qualche soldo in quel momento, magari ti dà altri soldi anche successivamente. A prescindere dal fatto che possiamo aver avuto un paio di incontri che hanno. Non è a prescindere, però. Cioè, non è così. Un conto è la generosità. Un conto è la generosità. Così, un conto è. Un reciproco interesse che poi può comunque comprendere anche un aiutino. Cioè, tu volevi dire che non ci sono solamente i sugar daddy che si rivolgono. Che si rivolgono ai boy. Cioè, non è un pigmaglione, diciamo così. Non è semplicemente un pigmaglione. No, vuole fare sesso con queste persone. Poi magari le relazioni ci trasformano. Ma il sesso può venire proposto anche dal ragazzo, non è? No, ma certo. Che moltissimi ragazzi. Tutti maggiorenni. A me è capitato un ragazzo che mi ha pregato assolutamente di andare a casa sua una notte perché si sentiva molto triste, voleva il papà che lo abbracciasse. Poi ci hai scopato. Diciamo. Non abbiamo scopato, siamo stati delle ore abbracciati. Addirittura. È finita così. E gli hai dato dei soldi? No? Lui voleva il papà. Quella sera voleva il papà. Quanti anni aveva? Ma lui avrà avuto 25-26 anni. Sì, non è che uno vuole il papà. Scusa, non è che uno vuole il papà e scrive lo scrive su una chat di incontri gay. Tutto strano. Me l'ha proposto chiaramente. Beh, può succedere. Però il discorso soldi a volte c'entra, a volte non c'entra. Dipende anche un po' dalla situazione. Però tu sei hai fatto e continui a fare ogni tanto lo sugar daddy di boy. Questo è il punto. Posso fare anche lo sugar daddy se mi interessa la persona. Perché sei facoltoso. Ma diciamo che posso permettermelo entro certi limiti. Ma qualche volta hai mantenuto. Regalo appartamenti. Però per un periodo, che ne so, hai mantenuto una persona dando qualche migliaia di euro al mese. Che hai fatto? Diciamo che ho dato degli aiuti occasionali. Però uno può scambiare. A specificare ma certo, per carità. Però Rocco, scusami, uno quello che capisce è giustamente. Ma ognuno poi. Se due persone sono consenzienti, può fare quello che vuole. Certo. Dunque, io non condanno nessuno. Ma assolutamente. Sì, adulti, anche dire, quello che tu fai fatto, quello che fai, io non lo condanno. Molta gente magari lo condannerà. Tu sei un omosessuale di 56 anni, facoltoso, che si mette su alcune chat, cerca delle persone per degli incontri, dichiara esplicitamente di essere un sugar daddy, cioè una persona facoltosa. È chiaro che attrai delle persone che oltre alla prestazione sessuale vogliono essere pagate. C'è anche una forma di prostituzione in questa roba qua. Ci sono, bisogna dividere un po' le due cose, perché c'è chi ti vuole perché gli piace come uomo e magari non ti chiede nulla, c'è chi esplicitamente fin dall'inizio si propone come escort, si propone per avere soldi, diciamo. Sì, così. Certo, vabbè, però c'è l'uno e c'è l'altro, ecco, naturalmente. Senti, che anni avevano, che anni hanno le persone che incontri di solito? Cioè, che età hanno? Ah, mi è capitato dal 20enne, 25enne, 23enne, 27enne, cioè comunque persone che potenzialmente giovani, hanno giovani. Molti meno hanno diverse, vogliamo, potrebbero ti piacciono quelli di vent'anni con vent'anni di meno, non è mi può tendenzialmente altro, però può capitare, questa cosa può capitare, anzi devo dire che nell'ambito gay capita molto molto più spesso rispetto a un etero che un ragazzo che ha 20-25 anni meno di te ti desidera. Senti, ma sugar daddy, sì, no, capito, sugar daddy di boy ce ne sono parecchi in giro? Beh, ci sono molti uomini, diciamo relativamente avanti con l'età, che amano proporsi così. E anche altrettanti ragazzi che probabilmente ci stanno e ricavano comunque dei benefici. Adesso io non posso entrare nelle case di chiunque per sapere cosa ricavano, fanno, ma... benefici, non c'è dubbio, anche economici, e poi... ma ci sono, perché c'è anche chi va a convivere, c'è anche chi... Insomma, ma non ho capito, Parenzo, ti fa schifo questa roba qua? No, schifo assolutamente, non lo direi mai. Mi lascia un po' perplessa la modalità dello sugar daddy, di questi giovani ragazzi che cercano sono questi molti, affetti. Comunque. No, ma me sono incuriosito dal fenomeno sociale, non do nessun tipo di giudizio, mi lascia davvero perplessa, però la dinamica di un signore come lei, che ad esempio appunto in cerca anche lei è una persona sola, diciamocelo chiaramente, sono fenomeni... questo io posso avere un padre, sì, o meno, ma questo è un discorso relativo. No, ma sono fenomeni che segnano una grande solitudine. Secondo me la chat è proprio una cosa che sconfigge completamente la solitudine, perché sapessi quanti messaggi arrivano ogni giorno. Ma esatto, mi sembra molto dinamiche. Diciamo così, sono dinamiche che funzionano. Se chi le vuoi accettare, ha famiglia, non è che si mette a cercare lo sugar daddy. Se tu sapessi quanti uomini sposati, mi sembra banale quel che dico. Sulla chat non puoi nemmeno immaginarlo. Ma non è che se uno può essere sposato, ma sentirsi molto solo, e quindi è comunque una richiesta di attenzione. Ti assicuro, io ho conosciuto tante persone, conosciute in senso biblico, ho conosciuto molte persone, devo dire almeno un 60% erano uomini sposati. Vabbè, ciao, no, amico sono mio. Molti di più, comunque ciao, al di là ciao. Di questo, ciao, vabbè, amico era mio. Perché non può ciao Rocco, ciao, da, ciao, da, da. Ciao. Allora ragazzi, io chiamerei però a questo punto l'uomo col sigaro dentro la vasca. Che dici, lo chiamiamo? Mi pare una buona idea. Che dici? Candidato della Lega in Calabria. No, se scusami, chi chiamiamo? Candidato della Lega in Calabria. Candidato della Lega in Calabria. D'accordo. Chiamiamo, dai. Pronto? Alfio? Sì? Sono Cruciani, come stai? Ah, sì, ditemi. Alfio, come? Sei il numero uno comunque. Posso morale, dire, posso morale dire, alle stelle. Io ti appoggio, Alfio, io ti appoggio in questa vicenda qua. Ho capito. Cioè, però... amico mio, però, uno non si può fare adesso, non può stare in un bagno con un sigaro e con un whisky in mano. Dai, su, ma di che parliamo, dai. Cioè, cattivo gusto, dicono, eccetera. Che fai, ti tiri indietro adesso? Devi rivendicare quello che hai fatto. Noi continuiamo a fare la nostra campagna elettorale nel massimo della correttezza. Io e il mio gruppo. Ah, tu da solo? No, perché sai, c'è gente che dice noi, no? Sì, ma che c'entra la correttezza in questo caso? Perché io credo essere una persona corretta, che non parlo contro nessun altro candidato. Ma non è questione di parlare contro il candidato. Ti hanno attaccato per quel video che hai pubblicato. Mi hanno attaccato perché non lo so perché. Sai, c'è il sigaro, c'è il sigaro, il whisky. Tu hai detto addirittura. Ma non c'entra niente una goliardata con la politica, chiedo scusa. Cioè, per tutto, chi non mi conosce, però, non è giusto che magari mi conosce da quel punto di vista. Tutta la vita, quando uno fa politica, è tutto politica. La vita privata, eccetera. Adesso hanno messo in giro questo video, evidentemente degli amici. Va bene. È tutto politica, ma il whisky là, no? Alla fine. Rum, scusami, sigaro e rum è un classico, poi tra l'altro. Sigari e rum sono un classico. Tu hai detto che vuoi addirittura offrirli in campagna elettorale. Ma che sigaro era? Che sigaro era quello là? No, non ricordo. Come non ricordi? È passato tempo, è un video vecchio. Ma non è una pagliacciata clamorosa. Per me non c'è niente. Una pagliacciata. Uno non può stare in una vasca con un sigaro in mano e col whisky. Lui è il perfetto simbolo della contemporaneità. Tutto per fare un saluto a dei miei amici in un gruppo WhatsApp. Perché si chiamava Revenge Porn quel gruppo? Ma l'amministratore ha usato questo titolo, non lo so, lo dovete chiedere a lui. L'amministratore. Il capitano che ha detto, il capitano, signor Salvini, no, si è incazzato, non si sarà incazzato. Modo di sentirlo. No, sai, tu hai una storia un po' complicata. Prima eri con Forza Italia, poi sei andato. No, io la prima tessera di partito dopo quella di Alleanza Nazionale è stata solo quella della Lega. Sostenere dei candidati. Prima eri con Forza Italia, essere tesserato. Eri con Forza Sostenere, fare delle campagne elettorali per alcuni candidati non significa essere tesserato. Una volta hai annunciato che passavi con i grillini a un certo punto. A sostegno perché c'erano quattro ragazzi giovani del mio comune. Quali partiti mancano? La Lega, per lei? Il simbolo della Lega non era presente, mi dispiace. Scusa, sei passato al 5 Stelle, Alfio. Io non sono iscritto a 5 Stelle, non sono mai stato iscritto. Allora, da Stelle. Consigliere comunale dell'attuale maggioranza del comune di Corigliano Calabria, adesso non mi fate incazzare. Mi preme l'obbligo di comunicare. Per me va bene i sigari, va bene i whisky, va bene tutto, il rum, quello che era. Ma se uno nega bene? La realtà, no, mi preme l'obbligo e il dovere di informare la cittadinanza e l'amministrazione della mia adesione al Movimento 5 Stelle. L'hai scritto tu, adesso non mi fare incazzare, Alfio. Io ti voglio bene. Ma l'ha scritto il giornalista, ho sbagliato il termine. No, l'hai scritto tu, la mia adesione matura dopo una lunga e travagliata riflessione. Io ho sostenuto una campagna elettorale. C'erano quattro persone candidate. Hai aderito ai 5 Stelle. Vedete se c'è un'iscrizione. Ma non lo so, ma hai aderito ai 5 Stelle. C'è scritto qua. L'hai comunicato tu. Ho sbagliato termine. Ma come hai sbagliato termine? Hai detto tu che aderivi ai 5 Stelle. Andiamo avanti, che siamo più forti di prima. Perché può darsi che, essendo un ragazzo giovane, alla prima mia esperienza, può darsi che la mia candidatura sta iniziando a dare. Ma hai cambiato più partiti di razzi. Che poveraccio, ne ha cambiato solo uno. Perché noi abbiamo iniziato una campagna elettorale nel massimo della correttezza. Scusami, Alfio. Ma che c'è da fare? Sei un trasformista. Stiamo andando alla grande e siccome un trasformista. Non mi posso attaccare da nessun punto di vista. Alfietto. Sei un trasformista. Abbiamo iniziato a dare fastidio a qualcuno. Ma nessuno. Soprattutto a chi? Alla vasca da bagno. Altri territori. Quante sono le province della Calabria? Alfio. Mi sento in forma. Alfio, guarda, quante sono? Quante sono le province della Calabria, Alfio? Secondo te? E che ne so, io non lo so, dimmelo tu. Io non lo so nemmeno. Come non lo sai? Ah, lei. Vabbè, non lo perfetto. So nemmeno. Non lo sai quante ce ne sono? Dovrebbe essere uno in più, che è Corigliano Rossano. Però sì, Corigliano. Facciamo un'altra provincia in più. Uno in più. Sì, ma facciamo tutte province. Se caso ci frega. Mi viene da pensare che sei un gran paraculo che vuoi salire sul carro dei vincitori. La Lega. Adesso è diventato leghista. Con l'accento calabrese è diventato leghista. Non lo dire che lo danneggi. Ripetilo ancora, per favore. Ripetilo ancora. Complimenti per. Ma quali complimenti? Aspetta. Ma non sei leghista. Cosa rappresenta l'Alberto da Giussano? Cosa rappresenta? Viva la fascia ionica. La fascia ionica, viva i giovani. La faccia da culo, forse. Le cose stanno cambiando, ragazzi. La faccia da culo, forse. Le cose stanno cambiando. Scusate, ora vi devo salutare. Ma sei ridicolo. Non ammetti manco la realtà. Complimenti pure a voi. Ma nemmeno la realtà ammetti che eri passato con 5 Stelle. Ciao. Ne parleremo il 27. Ma io non ci sentiamo niente. Ma figuriamoci. Noi che cazzo ci vuole. Non sia mai. Cioè, lo volevo anche appoggiare questo qua, lo volevo salvare. Cioè, lo volevo salvare dall'ipocrisia delle critiche sul sigaro e sul rum, che si è scoperto che è un rum. Invece è talmente, non mi fare dire niente, che qui la gente è facile alle querele, no? Cioè, è talmente... Come si può dire? Talmente idiota questo qua, da non ammettere neppure che era passato con un suo comunicato a un certo punto ai 5 Stelle un anno e mezzo fa. Ma basta dirlo, no? Ha fatto un comunicato, passa ai 5, non c'è la, non è che uno aderisce, non ci sono le tessere là. Ma questo è un esponente autorevole del sovranismo italiano, ma Lorenzo da Roma. Una cosa abbastanza fattuale. Lorenzo da Roma. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Senti, Volevo condividere con te un'esperienza personale che ci ho avuto recentemente, un paio di giorni fa. Che è successo? No, niente, sono molto contento perché con una botta sola una che è sardina. Sei riuscito comunista, a scoparti una sardina sì, comunista e poi anche comunista. Con quattro teste, no, quattro teste, vegana, sì, poi che c'aveva pure comunista, sì. Poi che c'aveva pure? C'aveva tutte. La rifondazione tutte. Comunista, eccetera. Beppe da Torino, dai, vai a fare in culo, vai. Beppe da Torino. Saluti. Dimmi. Pronto? Dimmi Beppe, dimmi. Allora, volevo semplicemente dare una risposta a tutto questo discorso di sentirsi in colpa per la morte, la tragica morte, ricordiamo, la tragica morte di quel ragazzino. Secondo me il discorso che dite della povertà di quei paesi, allora, quei paesi, le ricchezze che hanno, il valore delle ricchezze che hanno, lo diamo noi che li compriamo. Nel senso, il cacao della Costa d'Avorio. Vabbè, il adesso petrolio, il discorso è molto complesso, amico mio. Non è un discorso che si può fare in questa sede, in questa disgraziata trasmissione. Cosa vuoi dire? Andiamo al sodo, dai, di cosa vuoi parlare? Voglio dire che noi tutte le materie prime le paghiamo di santa ragione a questi paesi. Dunque, se sono poveri non è colpa nostra, non possiamo sentirci in colpa di loro. No, ma certo, questo è vero, non è colpa nostra. Ma che ragionamento è se sono poveri non è colpa? È ovvio che non è colpa nostra. Perché io non devo sentire a parte che non è sempre detto questo, cioè non, allora, non è sempre io in quei vero. Paesi ci vado, ma io in quei paesi ci vado per lavoro, ci sono i cartelli fuori, la gente il lavoro lo trova quando vuole, se vuole. E quindi non è il discorso, questa gente fa la scelta di volere venire qui per sfruttare il fatto che questi sono paesi più ricchi, ma sta a noi, sta bene che lì? Casa nostra, perché decidere se farli entrare o no. Perché stanno bene lì, secondo giusto, lei. Questo è giusto, questo è giusto. Così? Sta a noi decidere se questi possono entrare o no, è giusto. Cioè, noi non è che mia, siccome siamo in colpa di chissà che cosa, come dice Sabiano, dobbiamo fare entrare tutti indiscriminatamente. Signor Parenzo, mi scusi, cioè dottor Parenzo, guardi che non è questa la storia, no, ma posso raccontare, posso dirle una cosa, non è questo il tema. Fermi tutti. Lei vi sbaglia prego. Il punto di vista, ma poi glielo spiego per bene, con un approfondimento specifico. Vi prego, no, nessun approfondimento. Lo so. La zanzara. Ho trovato quattro parole che riassumono la mia vita. La gente deve pagare. La gente deve pagare. E con il sangue. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare. La gente deve pagare con il sangue, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare con il sangue, la gente deve pagare, la gente deve pagare, soffrire, la gente deve pagare, la gente deve pagare con il sangue, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare, pagare, la gente deve pagare con il sangue. Pena di morte no, però chiudere e lasciare morire. Pena di morte no, però soffrire. D'accordo? Beppe, avrei una domanda. Ma se, come a me, non me ne frega assolutamente un cazzo della questione del Medio Oriente, dell'Australia che brucia, dei cammelli, dei koala, sono una cattiva persona o cosa? No, perché se provi a dirlo a qualcuno che non te ne frega nulla di queste cose, vieni trattato come Saddam Hussein. Io non lo so. Io sono una leader di Salvini, mi piace. Una leader di Salvini, una leader, è lui il leader. Sì, lei. sì. Che guarda, è lui. Io sono è ora del cambiamento, sì. E questo è un nome, Salvini. Però è la Borgonzoni che è candidata, non è Salvini. Lo so. Beh, sempre della Lega. Lo so, lui è la sua spalla. Ciao ragazzi, sono qua, 50 Cent delle 20. È tornato. Sono qua. Dimmi. Ragazzi. Dimmi. Un anno scorso io c'è problema, io mia famiglia, tanti, vai avanti dietro, avanti dietro, mamma mia, bocca giuda, adesso io stanco, adesso mia testa è sempre girare, mamma mia. Oh, ragazzi, dimmi. 2019 sì. È passato. Adesso 2020 nuovo Ragazzi, sì. Io saluto tutta Italia. Tranquilli, sono qua, non c'è problema. A nessuno si era preoccupato. Stai calma. Soccorro, metti calma, tranquilli. Okay. Adesso, sì, 2020, qua. Mamma mia. Mamma vai di Facebook. Instagram, tutto. Anche YouTube, vai. Io c'è. Ragazzi, vai adesso. Aspetta di YouTube anche Instagram, tutto. Ragazzi, tranquilli. Ma nessuno si era preoccupato. Sono io, Stefano. Non c'è nessuno. Numero uno. Non c'è nessuno. Sì, va bene, c'è il numero uno, d'accordo. Adesso stentemi bene. Sì, buon anno a tutti. Sì, va bene. Ci vediamo a petardi. Fra un po'. Ci vediamo. Ma io non ho capito, perché questo qua nel 2019, sai chi è l'esegeta di queste cose qua? È Longoni, sa tutto Longoni. Di 50 Cent, Hai ucciso anche la professione di Longoni. No, ormai. Però non capisco se nel 2019 si era completamente assentato dalle scene, diciamo, dell'internet italiano. No, c'era del trash italiano. No, allora perché dice che era sparito il 2019? Ma che Longoni? So, ma ogni volta che fa un... Gli hanno hackerato il profilo? Ah sì, mi dice Pietro che gli hanno hackerato un profilo. Allora, qui abbiamo però un signore che ha denunciato, vuole denunciare Tujak, sai, il consigliere comunale Come di no? Trieste, certo. Che ha detto che i gay sono preda del demonio, sono mandati qui dal demonio. Vergognoso, ex Forza Nuova, non mi ricordo neanche più quante... Sì, il signor Tujak si chiama Alex, sì. Bini, è un artista di Trieste che è omosessuale, molto molto incazzato, giusto Bini? Sì, ma assolutamente sì, perché ho le palle piene di prendermi per il culo senza essere pagato, poi tra l'altro. Cioè, lui però non te lo butta nel culo, però scusami Bini, cioè, non è che tecnicamente non te lo butta nel culo questo signore. Cioè... Nel senso, vorrebbe, ma non saprei. Ah, tu dici che vorrebbe secondo te alla fine? Secondo me vorrebbe una costante, sì. Cioè, secondo te lui è un po' un gay mascherato, signor Tujak, non credo. Non saprei, perché se vuoi ti presento un po' di trans, dove insomma, tante cose se ne discute. Cioè, non ho capito, tu stai dicendo che il signor Tujak di nascosto va a transessuali a Trieste? No, io dico che c'è una costante dove magari, non lo so. Ma qual è la costante? Scusa, non ma ho capito. Sembra che ci sia una discussione a Trieste su questa roba qui. Vabbè, no, però scusami, Alex, tu adesso seriamente tu lo vuoi denunciare? No, noi vorremmo, sì. Ma noi chi? Bravo. Noi quelli che siamo colpiti, perché noi a noi non ce ne frega niente di lui, cioè esistesse o non esistesse, non esisterebbe, non ce ne fatto un cazzo, no? Tanto per stare sulla linea della zanzara, perché proprio cioè non ce ne frega niente, ma siccome che chi rompe le palle, cioè nel senso si dice si entra nelle lenzuola, noi non vogliamo avere proprio veramente, cioè, no, ho capito però scusami però, se uno dice come ha detto lui che i gay si sfondano il culo e litigano solo in mancanza di vaselina, se dicono che l'atto omosessuale è un atto satanico, se dice che è perseguitato dai gay, ho capito, certo. Ma non è che uno lo porta in tribunale a fare cosa? Quanti cazzo siete? No, allora no, aspetta, ragione, parlino in tribunale. C'è qualcuno che vi entra nelle lenzuola, voi? C'è qualcuno che vi entra nelle lenzuola? Sì, è pieno di gente che parla di gossip dalla mattina alla sera, di gente che scopa a destra. Ma quello è insultante, però. Quello ha insultato. Però, questo Tujak malefico. Però io posso pensare tutto il male possibile di Tujak. Però se uno dice che i due gay si sfondano il culo e litigano solo in mancanza di vaselina, è vergognoso. Se uno dice che l'atto omosessuale è satanico, non è che uno va a finire in tribunale. Dai, su, è ridicolo. No. Infatti, io non lo voglio portare in tribunale. Presenterò denuncia. No, aspetta, fermati. Perché non sai, perché noi qui a Trieste siamo molto strani. Allora, no, io lo voglio anche portare in tribunale, però domani vado dal prefetto. E che vai a fare dal prefetto? Vado dal prefetto perché è l'unico mio referente per il Presidente della Repubblica. Siccome... Ma che c'entra il prefetto, scusa? No, per il Ministro dell'Interno, il prefetto è il referente del Ministro dell'Interno. Ma per fare cosa? Non ho capito. Mi fate parlare, porca miseria. Allora, siccome che è bellissimo perché è un italiano perfetto io, siccome che non si può buttare fuori nessuno, a differenza di tutte le aziende, quando uno sputtana la propria azienda, no? Se io vendo polli e dico i polli non devono morire, ok? E quelli dei polli mi buttano fuori, no? Okay? Sì, sì. Allora, perfetto, è questa. Dunque? E, invece nei comuni, nella politica, non si può, perché se tu sputtani la città di Trieste, perché sputtani la città di Trieste, ok, non ti possono buttare fuori, perché sei consigliere comunale, è stato eletto, eccetera. Dunque, tu che vorresti fare? Lo vorresti far cacciare per indegnità, non ho capito. No, io vorrei, non vorrei, ma se poi, ma ce l'avete la canzone, ok? No, non ce l'avete, ok? Io vorrei proprio che qualcuno buttasse fuori, se tipo, non è possibile. Vabbè. Sai quello che vuoi fare. Vabbè, ciao Alex, ciao. Sì che lo so fare, perché vado dal prefetto. Ciao, ti saluto, domani ciao. Fermati. No, ho capito. Non si capisce che vuole fare, se lo vuole denunciare, vuole andare dal prefetto, eccetera. Ma se uno dice l'atto omosessuale è satanico, si sfondano il culo e litigano solo in mancanza di passeggiata. Ci sono gli estremi per fargli una bella querela. No, ma quale querela, per che cosa? Va preso per il culo. Guarda, e basta. Io ho già parlato con il mio ufficio legale. Mariolino da Trento, dai. Bravo, l'avvocato bravo, Cinetto, tutto lo staff. Pronto? Ti assicuro che è così. Sì, niente, ci sono estremi. Avevo sentito le considerazioni del Radical Chic di vicino riguardo al signor Baffa calabrese che ha fatto il video dalla vasca da bagno. Ma non è questione di Radical Chic, se a lei le piace avere un candidato così, evviva. No, a me non è Radical Chic. Non sono neanche leghista. Ma io la cosa mi rompe i coglioni. No, io non le sto rompendo i coglioni, sto dicendo la mia opinione con educazione. Con Radical Chic? C'è uno che è un candidato alle regionali, che in una vasca da bagno nudo con il whisky e il sigaro ed è Radical Chic, ma sarà da pagliacci, no? Mi parli sopra, forza, continui a parlare lei. Ma che forza, dai, avanti. Lei aprioristicamente giudica uno perché fa un video nella vasca da bagno nudo. Ma non è uno qualunque, uno che si candida in politica, no? Lei lo giudica perché è legista, lo giudica per quello che fa o che dice. No, capisce? Per quello che fa. Lei ragiona per dei preconcetti. No, lo giudico per le sue modalità di campagna elettorale, va bene? Ma non è campagna elettorale. Parte con video di qualche tempo fa. E che cos'è? Vabbè, è un video di qualche tempo fa, ma non è un problema. Lei deve giudicare anche il sesso degli anni. Se uno è un personaggio pubblico e manda in una chat di amici un video in cui sta in una vasca da bagno col sigaro, dopo un comizio di Salvini, sono qui in una vasca da bagno in un albergo a Roma, si può aspettare. È di cattivo gusto, punto. Non c'è da giudicarlo perché è legittimo. A parte che io non l'ho attaccato su questo, perché ognuno può fare quello che vuole. Ma uno può fare quello che vuole, stare in una vasca bagno col sigaro con rum, che è un reato, non ho capito qual è il problema. Io la penso uguale. Ma io non mi credo che è un reato, però. E secondo me Parento lo ha giudicato semplicemente. Ma non Davide da Verona. Davide da Verona, vai Davide. Pronto? Dimmi. Volevo parlare col dottor Parenzo. Sta qui, carissimo. Chi è questo? Ascolta. Come si chiama il ragazzo? Davide, che chiama? Davide da Verona, ottimo. Dimmi. Ciao Parenzo, ascoltami. Buonasera, un'informazione. Secondo te la circoncisione è una pratica? Andiamo con calma. Non ho capito come la chiama. La circoncisione. Allora guardi, ci sono diverse cose. La circoncisione. Poi c'è la circumvesuviana, che è un'altra cosa. E la circonvenzione di incapace, che è ancora un'altra cosa. Allora, amore, mi stavi dicendo. Vabbè, Davide, che vuole però? Allora, volevo sapere se secondo te è una pratica. Che cosa? La circumvesuviana. Sì, esatto. Vabbè, allora dai, dimmi. Dai. No, poi il discorso viene più ampio. Secondo te è una pratica solamente per chi è di una certa religione? No. O è una pratica chirurgica per tutti? È una pratica chirurgica per tutti, tant'è che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ripeto, negli Stati Uniti l'80% dei maschi italiani si fai capire Davide che cosa americani. Vuole? Mi fai capire Davide che cazzo vuole da 3 minuti che non ha detto nulla? Miseria, se non mi fa parlare. Allora, se uno dovesse chiamarti anziché dirti testa di cazzo, facciamo un esempio, un insulto, dopo essere testa di cazzo, uno ti dice testa circoncisa, per te è un'offesa a livello... Com'è questa offesa qua per te? Moreno da Monza, vai a fare in culo, dai. Ciao, ma chi se ne frega, Moreno da Monza. Ciao Cruciani, complimenti per la trasmissione. Dai, amore, forza, dai, forza. Senti, ho sentito il fatto della vasca. Hai detto che andava a Napoli, non ho capito dove voleva sì, andare. Ma le vasche che buttano, dai, era una battuta sulla roba che buttano che dalle finestre i cessi, però, no? Te li sai, a Capodanno però, ogni tanto qualcuno butta i cessi dalle finestre, no? Allora, ascolta. Succedeva, forse, non succede più. Ci sono anche le periferie di Milano e di Roma. Certo, non c'è dubbio. Però non beh, insomma, una certa pratica era piuttosto diffusa nel napoletano, diciamo, in campagna, quella di gettare in... Di gettare le robe vecchie, ok. Beh, di gettare le robe vecchie, dai. Insomma, non è più come una non volta, sarà più come una volta, però ogni tanto si vedono delle cose. Per esempio si vede un ragazzino sparare con una pistola, per esempio, no? Mi sembra di capire. Si vede un ragazzino sparare con una pistola, se abbiamo ancora l'audio. Stiamo parlando di vasche di bagno, No, ma ci sono diverse pratiche, diverse usanze che per anni sono state, come dire... Perché pure a Milano sparano con le pistole. Sì, ma certo, i ragazzini a Scampia che sparano, cioè non è che sono a... Cioè... Allora, non generalizzare, è inutile arrivare a quelle cose. Fermo là. La Zanzara. Otto del mattino, freddo, sonno. Nebbia in questa periferia di merda nord di Milano, le palle girate davanti al lavoro, però metto il podcast e quando sento qua qua qua qua qua a Nappi la giornata va alla grande, siamo al Nappi Top. Ragazzi, ma Salieri il sesso a cellare lo fa da una ventina d'anni, cioè io sono un appassionato già da 20-25 anni almeno. Informatevi almeno, cazzo. Vai a questa locina, babbo, che ti frega. La Scampia. Spara di là, spara. Spara di là. Spara di là. Salocina, babbo, che ti frega. La Scampia. Spara di là, spara. Spara di là, spara. Spara di là. Leonardo da Trento, vai. Fra poco grande collegamento, grande collegamento. Mi voglio inginocchiare, fra poco. Leonardo, aspetta, Leonardo, aspetta lì. Maestro, ci sei? Maestro Salieri? Eccomi. Beh, amico mio, buonasera, mi voglio inginocchiare. Eccomi qui, mi inginocchio qui, eccomi qui, di fronte al maestro dei maestri, il maestro dei maestri, ha accompagnato tutta la mia giovinezza. No, chi è Antonio? Mario Salieri ha accompagnato tutta la mia crescita, la mia giovinezza, i suoi film per me sono meglio dei film di Fellini, Fellini. No, Mario Salieri, ragazzi, re del cinema porno, il re assoluto. Ragazzi, applausi, mi voglio inginocchiare perché è già la seconda volta che lo chiamiamo. La prima volta che l'abbiamo chiamato c'era una polemica di cui non ce ne frega nulla sulle marocchinate. Questa volta, caro Parenzo, te l'ho chiamato ad anni di distanza, un anno e mezzo, due anni dalla prima chiamata, perché ha creato un nuovo capolavoro. Ormai gira poco, nel senso che ormai i film non si fanno più, vero? Mario, ormai i film non si fanno più come una volta, è vero o no? Assolutamente. Ormai sono piccole scene. Un talento che si è spento. Sono solo scene tematiche. Sì. C'è l'internet, no? Domina l'internet. Poi ci racconterai com'è cambiato il porno. Però questa volta hai fatto... Quanto dura questa nuova grande produzione che è ispirata al fascismo? La realtà dei nostri giorni, il fascismo che cresce, secondo Parenzo. Quanto dura questa nuova creazione che hai fatto? Dura circa 70 minuti. Ah beh, dunque praticamente un film, cioè un film di quelli tuoi classici. Beh, diciamo, 70 no? minuti, ammazza. Sì, ancora così. Qual è il plot, la storia? Qual è la storia? Qual è la storia? Se possiamo riassumerla, se possiamo ridurla a parola, no? Questa meravigliosa... Faccetta nera il titolo, no? Sì, giusto? La storia è uno scontro generazionale tra due fascisti, un gerarca e un giovane militante del fascio. Sì. Si svolge nel 1935 a Napoli e praticamente il preludio della guerra di Etiopia, insomma. Dunque, ma questo motivo porta il nome della canzone persone ispirata dalla propaganda fascista dell'epoca, che appunto è Faccetta Nera. Ma succede che c'è questo gerarca alla fine diventa cornuto in pratica, o no? Sì, diciamo di sì, con un piccolo colpo di scena, però insomma, sì, diventa cornuto. Capisci, Valenzo? Volete dire fascista cornuto, vedendo il suo film non costituisce più un problema, se è un fascista notoriamente cornuto. Bello. Allora, innazitutto l'attrice, una bella trovata, l'attrice caro, è una Antonio delle tue, Salieri, è bravo, una delle bravo, tue, bravo, non è Antonio. Guardi, ma comunque io prendo le distanze da qualsiasi colore politico, cioè il film si chiama Faccetta Nera perché si svolge nel 1935. Ecco, mi piace l'idea del fascista cornuto, a me questo a Parenzo, piace. Allora, questo se piace a lei io ne prendo atto, insomma. Io non però scusami Mario, ti sei ispirato anche al fatto che c'è una discussione adesso sul fascismo, no? Cioè ti si parla spesso di fascismo, immagino di sì, perché non è che ti è venuto così questa cosa di girare un film che si chiama Faccetta Nera, che poi diciamo la verità è un film porno, la gente scopa, diciamo, in questo beh, film. Questo fa parte, io sono uno studioso di storia, insomma, mi piace, vedi, è una mia passione, insomma, ma questo ha poco a che vedere con quello che racconto. Diciamo che questa volta ho avuto il desiderio di raccontare una storia con questo sfondo storico l'ho fatto, insomma, ma senza, ecco, ma secondo te c'è... senza alcun colore politico. No, certo, ma secondo te c'è un pericolo di ritorno del fascismo in Italia, tanto per capirci, perché si parla spesso di queste cose qua, per me tutte cazzate. Guarda, il fascismo è un fenomeno complesso, tra l'altro, bisognerebbe studiarlo bene, insomma, no? Non c'è dubbio. Ci sono, lo dicono loro che sono neofascisti, scusa. No, però c'è un pericolo. Ha girato alcune scene a Predappio, ad esempio. Fascismo, per esempio, che racchiude, così come descrive anche Montanelli, tutta una serie di fattori estremamente positivi. Ah, poi beh, dopo vedi, è degenerato successivamente. Insomma. Per cui Mussolini ha fatto delle cose buone, secondo te? Inizialmente, sicuramente, sì, secondo me, secondo il mio punto di vista, sì, nella fase iniziale del ventennio. Manco quando dormiva. Si è trasformato in una dittatura, è diventato, insomma, qualcosa di completamente da subito diverso. Da subito si è presentate in termini violenti, diversi, non ce n'è uno solo. Senti Mario, ma e la tua, una delle tue attrici preferite è praticamente la protagonista di questa storia, la signora Roberta Gemma. Roberta Gemma, canonica Roberta Gemma. È vero che c'è un po' di sesso a scellare anche, oltre alle solite scene fascisti. Ma veramente? Sesso a scellare? Sì. Ma tu da quanto è? Io chiamo il termometro. Cioè? Il termometro, appunto, il pene sotto l'ascella. Cioè, allora, tu da quanto tempo è che i fascisti neanche sanno usarlo, bravo. Da quanto tempo è che ci sono, che giri queste scene di sesso? Perché qualcuno prima ci ha mandato un messaggio dicendo: guardate che Salieri, in realtà il sesso ascellare, cioè il pene messo sotto l'ascella, cioè non è la prima volta che lo fa. No, cioè, assolutamente. Beh, ma tu considera che io faccio questo lavoro dall'83, certo, è il Tarantino del pene ascellare, praticamente. Ho raccontato tante cose, tante sequenze, tante scene, tante situazioni, tra queste sicuramente anche quella del molto innovativo sotto la scena. Il pene sotto la scena innovativo ai livelli di Quentin Tarantino, direi. Ma certo, innovativo, assolutamente, a modo suo, sì, innovativo. Ma perché lo pigli per il culo? Però un genio. Voglio capire, avete girato delle scene anche in quel di Predappio, amico caro? Ma guarda, qualche orgia in quel di Predappio, devi considerarlo come un genere. Certo, io lavoro, sì, nel contesto di questo genere. Certo. Quindi adesso tu vuoi fare un confronto con Tarantino, ma Tarantino lavora in un genere diverso. Probabilmente, giusto, sarebbe una pippa nel mio genere, Tarantino, capisci? Esattamente. Io nel mio genere ho raccontato qualcosa. Ma stai scherzando, ma assolutamente. Ho costruito un nome. Quindi voglio dire, mi limito semplicemente a essere un rappresentante dell'industria di intrattenimento per adulti, punto. Allora, è perfetto quello che hai detto, maestro. Sì, posso dire una cosa? Chi paragona i registi, alcuni registi di film porno, con i registi come dei famosi di altri generi, fa un errore. Perché giustamente hai detto tu, se una persona si mettesse a girare un film porno, probabilmente non lo saprebbe fare. Cioè, sarebbe una pippa assoluta. Guarda che il signor Salieri ha girato una volta un film che si chiama Stavros, una specie di saga. Vedi, sono un esperto io. Stavros. Sì. Sai che cos'è, Parenzo? Stavros. Stavros è il racconto russa, della saga. No, è una saga di Onassis, giusto o sbaglio? Cioè... Sì, diciamo, è un racconto della storia di Onassis molto romanzato, insomma. Beh, sì, certo, però è un film. Beh, no, una serie. Ah, una serie, complimenti. Anche Concetta Licata, se non sbaglio, no? Mitico Concetta Licata, andiamo indietro nel tempo, 1994, quella è una serie in quattro parti, sì. Capisci, perché tra l'altro, insomma, io ho inventato anche la serie nel mio genere, la serialità, voglio dire, nel mio genere. Assolutamente. Senti, qual è la differenza vera? Tu hai iniziato a metà degli anni Ottanta, cioè praticamente. Dove si trova questo film con i fascisti cornuti? Dove si trova? Io lo scusi se lo banalizzo. Sul mio sito internet. Ormai è tutto internet. Ormai scusi tutto se banalizzo parenti. Così. Ma se fa un sequel di quello, potremmo chiamarlo Fascisti cornuti atto secondo? Perché secondo me. Perché ma faccetta se nera. Vuoi, chiamalo anche fascisti grazie. Cornuti. Io non grazie. Ho alcun tipo di grazie. Problema. Se no, se è possibile, grazie, grazie. No, allora voglio sapere da Mario una cosa. Il porno è cambiato moltissimo, no? Cioè, una volta tu guadagnavi anche un sacco di soldi. Immagino che oggi guadagni un po' meno. Cioè, anche dal sì, punto di vista. Ecco, ci fai dacci un'idea del fatturato che è cambiato. Cioè, tipo, una volta guadagnavi tot, adesso guadagni, che ne so, un terzo. Diciamo che non è il problema che è andato a distruggersi il settore on video, insomma, tanto per intenderci la vendita delle vecchie VHS e dei DVD, che per noi rappresentava, diciamo, un fatturato molto importante. E il problema è che con internet c'è stato un dilagare della pirateria incontenibile, certo, che praticamente. Ecco, ma tu guadagni quanto di meno rispetto all'epoca? Cioè, che ne so, molto meno, almeno il 50% in meno, se non caspita, di più, insomma. Caspita. Per no, forza. No, i fatturati dopo il 2008 si sono decisamente. Sai che dovrebbero fare? Si è riciclato con internet anche lui e cerca di sopravvivere. Avrà messo da parte qualcosa, un po' di soldi. Ma avessi quanto da parte? Costa produrre uno dei suoi film? Attenzione, i guadagni sono sempre soddisfacenti, voglio dire, non è che sono guadagni da miseria, sono sempre soddisfacenti, ma nulla in confronto a ciò che si guadagnava prima. Cioè, oggi tu col porno 200.000 l'anno li fai, 200-300.000 euro l'anno? No, un po' meno. Senti, secondo me un'idea potrebbe essere quella, siccome tutti quanti vanno a girare questo film, tu sui fascisti l'hai girato in Italia, mi sembra, no? Sì, a Nola. A Nola, e ovviamente in campagna a Nola, perché in Italia si può girare a meno che? In Italia è un po' controversa la cosa, come parecchie cose italiane, ma diciamo che se non si offende la pubblica morale, quindi si girano questi film in ambienti riservati esclusivamente agli addetti ai lavori e non accessibili allo sguardo di persone esterne, si possono girare. Luca, tu l'hai girato a Nola in Nola io in campagna. Trovo scandalosa questa normativa che per stare al tema peraltro del suo film, per cui non è considerato contro la pubblica morale vestirsi da fascisti e fare il saluto romano, e invece una gang bang viene considerata. Io questo lo trovo incredibile. Questo, ecco, lei mi dà la possibilità di contestare. Sono cose diverse, deve essere considerato contro la morale. No, glielo spiego io. Deve essere considerato contro la morale travestirsi da fascisti come fanno e andare a Predappio a fare il saluto. Quello è contro la morale. Quello dovrebbe essere vietato. Invece tu girare una gang bang e invece in campagna. Esatto, bravo, esattamente questo. Però scusa, tu hai girato nelle campagne di Nola? Nelle campagne? No, io ho girato in appartamenti. In appartamenti, Nola, no? Certo. In appartamenti. Senti, quanto costa fare questo film, un film del genere, per esempio? Fammi un esempio. Ma no, non moltissimo. Il costo di questo 10.000 film euro, è intorno ai 35.000 euro. 35.000 euro. Sì. Senti, è sbagliato fare spesso delle classifiche, ma tu nella tua lunghissima carriera puoi farmi un podio delle migliori attrici che hai avuto? Secondo te, le migliori attrici che hai conosciuto nel cinema porno? Te ne hai conosciuti ma tutti? Guarda, ma è talmente lunga. Ma fammi un podio, fammi un podio. Ce ne sono tante, voglio dire. Le prime tre che metti nel tuo podio personale. Ma sicuramente Selene, che è stata una mia artista, ha lavorato in esclusiva con me per 7 anni, l'ho creata, diciamo. Selene è sicuramente la più rotiva. Poi direi un'altra attrice feticcio che si chiamava Deborah Wells, parliamo di un'attrice dell'inizio degli anni 90. Attualmente, ad esempio, c'è Roberta Gemma, che comunque è un'attrice e che attori? Rispecchia. E attori? Attori, certamente Rocco, che ha iniziato con me, tra l'altro, insomma, la sua carriera, e con cui abbiamo fatto moltissime cose. Steve Holmes, per esempio, è un altro attore che secondo me è molto, molto, molto bravo. E poi? Un terzo nome? Un terzo nome potrei dirti Roberto Malone. Grande Roberto Malone, un grandissimo Roberto Malone. Sì, tutti i nomi a me sconosciuti. Fermo là, che torniamo fra poco con Mario Salieri per la chiusura. Mario Salieri, regista, produttore, ultimo film, Faccetta Nera. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroën C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroën. Divisionismo, la rivoluzione della luce. Dal 23 novembre al Castello di Novara, riuniti per la prima volta in una grande mostra, 70 capolavori di Segantini, Pellizza da Volpedo, Previati, Morbelli, Fornara, Longoni, raccontano la storia della prima avanguardia italiana di fine Ottocento. Divisionismo, la rivoluzione della luce. Dal 23 novembre al Castello di Novara. Mostradivisionismo.com. La Zanzara. Direttore! La sta contenta, parlando, ah! Bastardi in merda! Sta contenta, guaglione, ah! E io sapevo! La grande zizza carina! Vai avanti, vai, la cuna! Questo è quella bestia di la corte che appena mi ha detto che sarebbe stato ospite Mario Salieri, mi inginocchio nuovamente di fronte al maestro, ha detto è quello di Concetta Licata, la corte che è il nostro regista, caro Salieri, ha detto che palermitano si ricordava di questa grande saga di Concetta Licata. Tutti gli amanti. Ho sentito che ha mandato in onda un momento audio. Esatto. Audio, ma per me Salieri è una specie, adesso io sto sottovalutando, voi state sottovalutando, soprattutto Parenzo, sottovalutando il personaggio. Salieri ha cresciuto intere generazioni, almeno la mia, è cresciuta nella visione di questi film che non sono solamente delle scene. Cioè i film di Salieri oggi purtroppo il cinema porno è cambiato, lui stesso ce l'ha detto, c'è l'internet, ci sono le scene più che le trame, va bene. Però Salieri aveva la trama, aveva gli sguardi delle persone che scopavano tra di loro, aveva le situazioni che si creavano, e era tutto, era una... Salieri, perché parli al passato? No, perché poi ne fai meno di film rispetto all'epoca, no? Cioè rispetto a qualche anno fa. Sì. Per questo dico, aveva purtroppo, perché il porno è cambiato, ragazzi, non c'è niente da fare, l'internet ha cambiato tutto. Io però ho un'idea, secondo me dovrebbero, invece di andare a girare all'estero, tu spesso hai ancora, credo, una società di produzione in Ungheria, Mario, io credo che in Italia, che è il paese per eccellenza del sesso, delle donne, eccetera, dovrebbero creare delle zone, Parenzo, di delle free areas, delle free? Zone free areas, sì, delle zone, free areas, no, free tax areas, volevo dire, free tax, delle zone franche, sì. Dove con tassazione bassa per le produzioni pornografiche, per esempio a Napoli, dove c'è bisogno di lavorare, perché non fare una zona franca da questo punto di vista? No, c'è bisogno di lavorare dappertutto, ma no, Mario. Dovrebbero fare delle zone di con bassa tassazione per portare le società di produzione, perché bisogna andare in Ungheria? Beh, questo non accade in nessun paese del mondo, sinceramente, insomma, è una cosa... Ma inventiamoci qualche cosa, qualcuno dice che bisogna inventarsi delle cose, per il sud inventiamoci delle tosse, delle zone con una tassazione più bassa e magari iniziamo dal porno, no? Luce, attrarre capitali. Io credo che l'Italia meriti una tassazione più bassa in genere, poi la tassazione più bassa porterebbe anche al fatto che molti imprenditori del mio settore ritornerebbero a lavorare in Italia piuttosto che andare all'estero. In Ungheria perché ci andate voi? Ci andate perché? Perché c'è un regime fiscale molto più conveniente. In Ungheria c'è una flat tax al 15%. Quindi voglio dire, insomma, è una cosa molto, molto diversa. Senti, il sesso ascellare nel tuo film, chi è che lo fa? Chi lo pratica? Il ragazzino alla moglie del gerarca? Lo pratica Roberta Gemma e un'altra attrice molto bella che si chiama Vicky Brown. Sì, ma qual è la cosa? Chi sono i personaggi, diciamo, che lo praticano? Il ragazzino che si scopa la moglie del gerarca, che fa sesso ascellare. Esattamente, capito? Che cosa c'è di male nel sesso ascellare? Ma non dico niente, dico, va bene, è viva. Tu sai che quando io esprimo disappunto, è viva. Evviva. No, ho capito, ma qual è? Evviva, ma che ti devo dire? Evviva, gli piace il senso. Evviva, vediamo adesso il dettaglio del. Ma chi ha fatto la scena? Che ha fatto? Che scena sarà? Mi sarà mica una scena complicata. Ma mettere il bene dentro. Ma dai. Beh, te lo dice ma, Mario che è complicata. È complicato girare una scena di sesso ascellare. Non è semplice. Lui la fa troppo facile, Mario. Spiegagli le difficoltà di girare una scena di questo tipo, ti prego. Le difficoltà intanto sono enormi. Adesso se vogliamo ridere sull'ascellare possiamo anche farci due risate, è una cosa anche normale. Però ti garantisco che riuscire a restituire delle emozioni erotiche in una scena pornografica che di per sé è noiosissima perché racchiude una serie di posizioni ginniche e assolutamente noiose è una cosa molto molto complicata. Non a caso io ho un pubblico di nicchia che segue i miei film proprio perché riesco a raccontare e a trasmettere delle emozioni erotiche nella pornografia che di per sé è l'antierotismo. È meccanica e basta, è pura meccanica. Senti, i tuoi attori naturalmente si bomberanno come tutti gli altri, cioè faranno uso anche loro. Non tutti fanno uso di sostanze per raggiungere l'erezione. Certo, oggi è una pratica molto diffusa, ma ce ne sono ancora alcuni che invece riescono miracolosamente a fare tutto da soli. Sì, pochi però, diciamo la verità, molto pochi. Pochi, sì, ma ci sono. Ma le pompette le fanno, le punture le fanno i tuoi? Sì, sono molto diffuse, certo. E tu che fai? Non dai dei consigli, ragazzi, state attenti, eccetera, oppure... Sempre naturalmente, questo è uno dei miei compiti primari, come il mio compito primario insieme a tutti i produttori della nostra industria, quello di controllare tutti i test che sono necessari per... Vabbè, quello è normale, certo. Per partecipare al... Senti, il mondo dei transessuali non ti interessa nei tuoi film? Guarda, ho fatto qualche piccola cosa, ma non rientra nelle mie corde, non è nelle mie corde. Come mai? Sei uno vecchio stampo, tu diciamo. Sei uno... No, sinceramente non quali sono le tue scene? Le tue ho scene... fatto qualcosa in passato, ma poche cose. Quali sono le tue scene preferite? C'è una scena... Le mie scene preferite in che senso? No, le scene preferite, cioè le tue cose che preferisci, il tipo di scene, il tipo di atto sessuale, cioè qual è l'atto... No, ma guarda, io preferisco l'erotismo, il preliminare in genere, ah, il preliminare, più che l'atto sessuale. Il preliminare secondo me è una cosa molto importante. Tipo... un movimento, uno sguardo, vedere non vedere, insomma. Anche la masturbazione mi sembra che ti interessa. Anche la masturbazione, sì, ho visto, anche mi ricordo. La masturbazione e il voyeurismo stesso è tutti anche secondo settori. Me un elemento molto erotico. Sì, mi ricordo che nei tuoi film c'è grande spazio anche per la masturbazione. Film porno che ci deve essere spazio per le riflessioni su Platone. No, dai, che dici? Però guarda, lo dici come se fosse tu stai banalizzando. Per 70 minuti ci deve essere del sesso e quindi grande come fosse una scoperta. Ma dai, mettere su. Del sesso è facile mettere del sesso come dice lui, bisogna creare delle situazioni, delle emozioni. Io dico a Parenzio che esistono differenze enormi tra film porno e film porno. Anche se lui ritiene che siano tutti esatto, uguali, bravo, ma posso garantire che non è così, altrimenti io non avrei ragione di esistere, esatto. Soprattutto in quest'epoca, soprattutto nell'epoca di internet. Un'ultima cosa, Mario, è vero che una volta un prete si masturbava perché voi stavate girando, stavate girando in una chiesa? Sì, 1997, il film si chiama Il Confessionale, fu uno scandalo mondiale, addirittura volevano annullare tutte le cerimonie religiose praticate dopo le riprese del mio film, il parroco che aveva in gestione la chiesa l'affittò regolarmente con un regolare contratto. Ma sapeva e che si divertiva a masturbarsi dietro le quinte mentre noi giravamo. Ma lo sapeva la chiesa che sarebbe stato girato un film porno all'epoca? Sì. La chiesa, lo sapeva il parroco che aveva in gestione la chiesa, chiaramente. Era lui che disponeva delle mura ed è lui che l'affittò attraverso un regolare contratto. Quello non vedeva l'ora, evidentemente. Un grande manager che si occupa di security, diciamo, informatica, ma veramente un grande manager. Dirò soltanto il nome, si chiama Gianni. Grande manager, dice. Lo conosce Salieri. Ma lo vedi? Ma certo, ma lo conoscono tutti. Grande manager, persona. Ma che c'entra? Perché è chiaro, ma Salieri lo conosco perché è stato uno che ha rivoluzionato il porno. Dai, ragazzi, è così. Ciao Mario, ti saluto, ti abbraccio. Ciao caro. A presto, ciao, avanti tutti. Ciao. Che l'uomo in merda non sa merda della femmina con Matteo. Ma che ti sei fermata? che si stava facendo, si stava facendo un didalino. Perché ti sei fermata? Ah, pensavo fosse Gomorra, figurati. Pensavo fosse un pezzo del film della serie Gomorra. Allora, Leonardo da Trento, dai, che Leonardo da Trento. Vai, Leonardo, dimmi. Leonardo da Trento, sentiamo. Dimmi, ciao, no? ma intanto vi ringrazio un po' per avermi fatto. Pronto? Dimmi. Eccoci qua, okay, pronto. Scusate, non sì. è che sono. Mi sono appena pulito via la terra. Da che? Dai vestiti. Perché un po' oggi mi ha fatto girare i coglioni Parenzo, come al solito. Perché. Perché cosa? Evviva, evviva. Questa roba dell'immigrazione, solite robe. Secondo me sta gente, Beppe, vuole il ritorno delle navi negriere, dei nuovi schiavi. Sì, può essere. Esattamente. Sta gente vuole il ritorno dello schiavismo. Perché, capito, io in campagna vedo gli italiani che mi chiedono quanti soldi offrono, no? E mentre ci sono gli altri che dicono lavoro per qualsiasi cifra. E secondo me è questo il problema di fondo, nel senso, il discorso è, se tu fai entrare in 3 anni 700.000 persone, capito, vuol dire... Mi sembra un po' troppo, però. Quanto facciamo entrare, Leonardo, scusi? Non lo so, però non negli ultimi anni... Allora già non lo so, era un elemento interessante. No, tu dici, c'è chi fa il tifo... Però siamo alla zanzara, apparenza, adesso. Però cioè, tu dici, Leonardo, tu dici, la sostanza è questa, che ci sono... quelli che favoriscono l'immigrazione, che fanno il tifo per l'immigrazione, indirettamente vogliono fanno arrivare qui delle navi negriere dove poi la gente viene pagata 2 lire per lavorare. Questa è un po' la sostanza, no? Ma nel senso, quando vedi alcuni prezzi della frutta e verdura, quando vedi alcuni prezzi in giro, dietro c'è sfruttamento, Beppe, cioè nel senso, ma questo dirlo, prescinde, però... un po' da, prescinde un po' dall'immigrato, cioè se non c'è l'immigrato ad essere sfruttato, esatto, ci sarebbe qualcun altro. Esatto. Ma l'italiano purtroppo sta, o per fortuna sta meglio, capisci, non li fa più certi lavori, ma non è perché non li vuole più fare, perché non sono più pagati. Giuseppe, ho capito, Giuseppe da Cuneo, vai, un'altra cosa, che c'è? Un'altra cosa. Che c'è, Leonardo, dimmi. E anche sta roba delle pensioni mi sta sui coglioni, perché sta gente che dice dobbiamo fare entrare gli immigrati per le pensioni. La verità è che non per quello, perché è chiaro, guardi, amico Leonardo, caro, se prima c'erano 3 persone che lavoravano e una in pensione, ora siamo esattamente all'opposto. No, ma che c'è, e quindi questo? È chiaro che il sistema non regge. No, ma quello è un altro discorso, calcolo matematico, non ha a che fare per forza col fatto di aumentare l'immigrazione. Comunque, Giuseppe non è che vengono qui per pagarci la pensione, anche questa è una stupidaggine. Giuseppe da Cuneo, beh, a lungo lo hai detto anche tu, Giuseppe da Cuneo. È uno degli elementi che alla lunga potranno servire. Dimmi. Ciao Giuseppe, senti, io mi sono rotto i coglioni di sentire gente che dice che farsi le canne fa male, passa è il passaggio per arrivare alla droga pesante. Smettetela di dire cazzate, perché non l'avete mai provato sulla vostra pelle, non sapete che cosa vuol dire. Chi arriva all'eroina, chi fa il passaggio è perché ha dei problemi prima. La canna, la marijuana non ha mai ammazzato nessuno. Avete mai sentito qualcuno che è stato arrestato perché aveva bisogno dell'hashish o della marijuana? Avete mai sentito qualcuno che è morto per astinenza? Quindi per favore, basta. Io sono 30 anni che mi faccio 12 canne al giorno. Questo... 30 anni. Non ho capito, Giuseppe, quante canne ti fai al giorno? Almeno 12. Però, almeno Giuseppe, 12. Adesso ho capito, però, amico mio, però tantino, se qualcuno andasse, perché da poi ogni caso è diverso. Diciamo che non affiderei il pulmino di scuola dei miei figli. Che mestiere fai, Giuseppe? Posso dirlo? Che mestiere fai? Io faccio l'autista. Ecco, appunto, io non lo sapevo. Per vedere, scusami, fai l'autista. Ecco, io non le affiderei. No, aspetta. Si offende. Fai l'autista di che cosa? Io faccio l'autista adesso di merce. Prima facevo l'NCC, Giuseppe. No, però ho capito, amico mio, però no, conducente. Giuseppe, ogni persona reagisce alle droghe, all'alcol in modo diverso. Infatti, quello che ti sto dicendo no, anch'io. Ma questo d'accordo, però, se uno si fa 12 canne al giorno, da quanti anni? Almeno sono 30 anni, da quando avevo 17 anni, Giuseppe. Ecco, io credo, Giuseppe, che se qualcuno andasse a vedere dentro il cervello la tua situazione, qualcosì, non lo so, magari Ma come fai a dire una cosa del genere? Come fai? Hai parlato con me per sapere quali sono i miei impegni, le mie cose. Non lo puoi sapere. Giuseppe, sto dicendo, Giuseppe, che tu puoi fare quello che vuoi e ognuno reagisce in modo diverso italiani! Alle canne. Però Però uno che si fa 12 canne al giorno non puoi dire che è normale farsi 12 canne al giorno. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Lo dici tu che non è normale. Ma per me è normale. Capisci che è soggettiva la cosa? Ma sì, è soggettiva. Ma 12 guidava, canne al giorno, amico mio. 12 canne al giorno, non so che tipo di canne. Magari erano canne piccole con un quantitativo. Ma che canne piccole? Ma di che cazzo stai parlando, Giuseppe? No, dai, per favore. Non stai parlando con si aggrava la situazione. Che canne ti fai? Questo è come il rosmarino o hashish? Non ho capito. Si smuova il rosmarino, va bene. Io mi fumo sia la marijuana che l'hashish. Ecco, ci può dire dove esercitava l'NCC, per favore? Per, che no, così, per non capitare in zona. Mi pare evidente, sì, certo. Sì, sì, sì, no, no, ma non te lo dirò mai, Parenzo. Muori però, con questa cosa. Però, questa, Giuseppe, scusami un attimo. Cosa. Tu alla sempre fine, devo dire, alla fine solo le canne ti fai, no? Sì, sì, sì, sì, sì, non di più. Non, da di, 30 più. Anni, non 12... di più, 12 canne al giorno, non di più, mi pare già non abbastanza. Di più, ma cerca di pesare le parole, imbecille. Non di più, scusi, nel senso che non ero io. Capisco il mondo al contrario. No, scusi, scusi, scusi, scusi. No, ma quello al contrario sei tu, Parenzo, perché tu travisi sempre tutto. Sì, ma io non traviso niente. Ha detto che fumo 12 canne al giorno, non traviso nulla io. Ma no, ascolta, tu stai travisando il fatto che uno dica che si faccia 12 canne al giorno. È normale fare il bagno, una vasca da bagno e candidarsi a Reggio Calabria per vai la Lega, è normale fumare 12 canne al giorno, è normale masturbarsi sotto l'ascella, io non ne posso più di tutti voi, non ne posso più di tutti voi, dalla tua nuvoletta e vieni a vivere in mezzo a noi proletari, no, ma la di ignorante, ma non è che la gente normale si fuma 12 canne al giorno, tu non sai che cos'è la vita, tu sei solamente davvero, sai cos'è che tu domani mattina ti alzi e hai il caffè pronto, hai la camicia stirata, tu non ti alzi cosa al mattino alle 4 come tutti quanti, quindi tu che come cazzo stamattina mi sono svegliato alle 4 per come una no? canna alle 4 e 20 stamattina, scusami, qualche tuo collega ti dà mio fa, adesso tu vieni a fare la morale a me quando tu te fai una, che differenza c'è tra 1 a 12 testa di cazzo, insomma, adesso ma io mi devo prendere la testa di cazzo da uno che si fuma 12 canne al giorno, dimmi ma ti sembra normale a te? Ma io non vi sopporto più, ma io non vi sopporto più, non vi sopporto più, il domani l'ho detto io, ma vaffanculo dai, vaffanculo tu pezzo di merda. Arrivederci e come sempre viva la libertà di espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterseli di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà.